Vede, secondo l'antica filosofia della mobilità, ci vogliono molti anni per raggiungere l'equilibrio perfetto tra forza ed eleganza. Tranne per Peugeot 3008 in pronta consegna e con 9.000 euro di vantaggi. Parti subito e senza pensieri, con il SUV iconico dal carattere deciso, linee raffinate e l'innovativo Peugeot e-cockpit. Valido solo per vetture in stock, con finanziamento iMove e immatricolazione entro il 31 dicembre 2023. Scopri di più su Peugeot.it. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise. The end. I'll never look into your eyes. I hear the E finalmente siamo arrivati a questo epilogo, questo capitolo conclusivo di questo fantastico, meraviglioso speciale che abbiamo fatto sul Commodore 64. Abbiamo parlato dell'hardware, della sua storia, abbiamo parlato dei giochi, ovviamente, su archeologia videoludica. Continuiamo un po' a parlare anche di giochi, ma in maniera diversa, perché chiudiamo con il capitolo mancante, che è comunque una parte fondamentale, importante della storia e di ciò che rappresenta il Commodore 64, ossia praticamente l'audio e tutto ciò che ne è correlato, quindi sia da un punto di vista strettamente tecnico che da un punto di vista anche artistico, quindi musicale, perché grazie a Commodore 64 o comunque alla generazione 8-bit poi sono anche nate ovviamente delle correnti musicali, possiamo chiamare così, che ancora oggi tra l'altro funzionano. Chiaramente, come tutti e tre gli episodi, anche tra intro, outro e via dicendo, c'è con me Alex Raccuglio. Ciao a tutti, ciao. In particolare per questo episodio, perché lui ci tiene particolarmente, se l'è studiato, se l'è preparato e via dicendo. Ma perché ci tenevi particolarmente? Cioè, c'hai un legame particolare? Allora, devo essere sincero, il mio legame con la musica è nato più con l'Amiga che con il Commodore 64, però devo dire che mi ricordo ai tempi del Commodore 64, appunto, le musiche sono state qualcosa di, tra virgolette, di rivoluzionario, perché grazie al chip di cui parleremo fra poco, il chip sonoro che era il SID, chiamiamolo all'italiana, per la prima volta nella storia dell'informatica era possibile realizzare dei suoni di una certa complessità, al punto tale per cui il comparto sonoro dei videogiochi andava oltre la funzionalità di effetto sonoro, sparino, musichetta stupida, ma poteva addentrarsi nel campo della creazione veramente, della vera e propria creazione artistica. Per cui quei primi anni 80, dal mio punto di vista, per certi versi sono stati una sorta di grande calderone in cui sono nate le stili e strutture armoniche che poi hanno influenzato, secondo me, i successivi anni 90 e anche oltre, perché effettivamente i bambini che avevano 10 anni negli anni 80 ne avevano 20 negli anni 90 e quando suonavano hanno ripercorso quel tipo di sonorità, quel tipo di musicalità, quel tipo di strutture armoniche. Per cui dal punto di vista proprio questo chip, il SID e i videogiochi del Commodore 64 sono stati una grande influenza dal punto di vista musicale nei decenni successivi. E poi la cosa secondo me nella fine degli anni 90 si è un po' esaurita, perché poi la dance music ha preso una deriva differente, però credo che comunque invece la sonorità più underground, che ne so, quelle, per esempio quelle delle heavy metal, perché diciamo che le heavy metal era una musica ascoltata da non dalla massa, ma da una relativamente piccola nicchia di persone, erano essenzialmente quelli che erano i nerd degli anni 80, cioè i bambinetti, per cui diciamo che c'è stata una sorta di evoluzione che è traslata da un tipo di musica che è quella prettamente elettronica a una invece prettamente proprio analogica, quella proprio suonata vera e propria, che però ha mantenuto le stesse strutture ritmiche e armoniche dal mio punto di vista. Però questa è una mia idea, una mia teoria, forse è stato il mio percorso musicale, però credo che ne ho riconosciute alcune di cose, e queste cose siano in parte possono essere vere. Che poi io, che sono un figlio della storia o noi che siamo figli della storia, io ricordo perfettamente su alcuni testi di descrizione, adesso non ricordo se sul manuale o sulla pubblicità, perché chiaramente a differenza di voi altri, insomma, io ho un rapporto con la storia che è puramente mnemonico cioè quello che mi ricordo bene, quello che non mi ricordo ciccia, che mi ricordo che c'era questo termine che risuonava proprio sulla questione del Commodore 64, che era l'opportunità di utilizzare musica in senso polifonico, quindi praticamente di inserire un maggior numero di canali che permettevano di avere ovviamente la parte di assolo, la parte di accordi, quindi tutta la base, il background, il basso d'accompagnamento, quindi cose insomma che in linea massima fino a quel momento erano quasi sconosciute nell'ambito del videogioco, dove ovviamente si sentiva quasi solo il motivetto principale e effetti sonori che sostituivano nel momento in cui c'era l'effetto sonoro magari proprio il brano musicale, no? Quindi c'era questa frazione di secondo dove magari tu prendevi l'oggetto, sentiva blip e poi ritornava a fare la musica, insomma. Questo è un po' quello che ha introdotto il SID come tipo di chip, prima di andarlo a approfondire tecnicamente, oppure sto di una delle mie sorelle? No, hai detto bene, perché sono iniziare a parlare del SID. Il SID era stato uno dei primi chip che consentiva di avere più di un canale, nella fattispecie ce n'erano tre, e per cui di senso, ogni canale poteva essere dedicato a, tra virgolette, una nota o un effetto sonoro. In realtà poi combinandoli insieme o modificando molto velocemente ogni singolo canale si potevano ottenere degli effetti effettivamente polifonici, cioè più note suonate contemporaneamente e con un range molto elevato di possibilità. Era possibile effettivamente avere una parte ritmica, una parte armonica d'accompagnamento e una parte melodica, proprio la parte di solo, di strumento principale, per cui oltre ad avere anche gli effetti sonori, per cui diciamo che se c'era una grande ricchezza di una grande offerta, diciamo, da parte dell'hardware nei confronti del musicista, che era comunque un programmatore, perché insomma non dimentichiamoci che anche questi, la maggior parte dei musicisti scriveva i propri software per scrivere musica, anche perché Non è che c'era proprio una struttura dati, un formato di file che poteva essere dato in pasto a questo chip. Soprattutto è stato derivato successivamente, soprattutto perché la memoria era quella che era. In 64K bisognava farci stare tutto: musica, certo, effetti sonori, la grafica, la logica del gioco, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, io continuo a ripetere, considera che se tu apri Angry Birds, l'icona di Angry Birds occupa più di 64K. Esatto, sì. Questo è sempre, noi lo ribadiamo ogni tanto, ma è importante dire. È singolare, nel senso, l'icona di un programma, cioè la singola immagine grafica occupa più di un intero videogioco di allora. E molto probabilmente i programmatori di allora sarebbero riusciti a sviluppare un Angry Birds anche su Commodore 64, perché alla fine la logica è, a parte alcune routine fisiche, la logica è abbastanza semplice. Parlo di Angry Birds perché sto appena scaricato il 2, mi sto divertendo come un pazzo e sto bestemmiando in lingue dimenticate dall'uomo da tanti anni. Anticamente. Bene, no, però dicevo, poi in realtà un accordo musicale in realtà su base, come dire, si basa su tre note, no? Quindi in realtà, ecco, già soltanto quello permetteva una sorta di complessità. Poi, come dicevi tu, il fondere in qualche maniera i suoni anche molto velocemente, sostituirli molto rapidamente tra un canale e l'altro, roba del genere, comunque alla fine ci hanno permesso di sentire cose, poi sentiremo chiaramente più avanti anche degli esempi, ci hanno permesso di sentire cose veramente articolate, anche musicalmente interessanti, che poi, voglio dire, hanno fatto la fortuna di questa cosa. Prima di, appunto, di parlare del chip, diciamo una cosa, che oltre a quello che dicevi tu, il fatto che il musicista era anche programmatore, perché si scriveva il suo software musicale, in realtà alcuni scrivevano direttamente la musica in codice, quindi è ancora più complesso come meccanismo. Poi dopo sono nati anche veramente i software, i music maker, ci sono insomma tante cose, si trovano su internet, ce l'abbiamo, magari è capitato anche a me, c'avevo comunque le cassettine con i programmini che ti permettevano di fare la musica, ovviamente sempre cose per noi che non eravamo, cioè io perlomeno che ero handicappato per fare cose del genere, però insomma la vocazione c'era da questo punto di vista per questa macchina, che poi ci siamo sempre domandati, chissà se volontariamente o involontariamente, secondo me è stato più un caso quasi. Beh, in realtà adesso parliamo un pochettino della storia. Lo sviluppatore cioè quello che ha programmato, che ha inventato questo chip, che era Robert Jans o Jens, non so bene come si chiama. Jans, esatto. Chiamato Bob dagli amici. In soli 5 mesi progettò e creò la prima versione di questo chip. E il suo obiettivo era quello, per la prima volta, di realizzare un chip che consentisse effettivamente di fare musica, perché la maggior parte di tutti gli altri chip era pensata essenzialmente per fare micro effetti sonori, però non per dare un feedback completo. Evidentemente Jans, con i capelli lunghi, mamma che roba brutta. Jans era comunque un musicista, che ne so, magari aveva suonato la tastiera o il basso, la chitarra, in un qualche complesso, nel senso sentiva la necessità di avere qualcosa che consentisse di fare di più, per cui ha sviluppato questo chip, il famosissimo, il codice è il, mi è venuto un attimo, si chiama SID, ma il suo nome è il 6581, sì. Scusate, adesso D'Agostino mi prenderà a porco duate. No, ma voi state al mare a mostrargli a pegare, noi stiamo qua. Esatto, no, non siamo al giro a fare windsurfing. Esatto, bravo, di notte. Esatto, diciamo che lui ha deciso di realizzare un oggetto che avesse delle grandi potenzialità. E infatti le potenzialità del chip erano essenzialmente molto, molto più avanti della maggior parte dei chip degli allora. Era effettivamente un chip pensato per una console di videogioco, perché come è stato detto precedentemente in queste puntate, inizialmente il Commodore 64 doveva essere il Commodore Max, cioè una console di videogiochi. Poi il progetto è cambiato, però la derivazione sia grafica che sonora sono rimasti, lo sviluppo c'era già, Commodore produceva internamente i chip, cosa che non fa più nessuno ormai, per cui diciamo che c'erano delle economie di scala che potevano essere rispettate, e abbiamo detto anche precedentemente che il Commodore 64 a Commodore non costava tantissimo e di conseguenza neanche al pubblico. Allora, spariamo un po' di dati tecnici, poi commentiamoli su questo chip, se va bene. Sì, quindi parliamo del chip, di cui abbiamo precedentemente già parlato, perché comunque Sant'Agostino un po' ne ha fatto riferimento, però senza addentrarsi di tanto, perché poi la specifica rapportata al cosa significa la specifica, diciamo, non era proprio. Invece con Alex abbiamo pensato, cioè, cosa, come funzionava, cosa faceva, e spieghiamo anche che cosa era, perché insomma forse era un po' questo che è mancato ovviamente nelle altre puntate, e per cui ne abbiamo poi fatto una specifica. Quindi parliamo del SID, che poi in realtà chissà com'è, SID sarà SID oppure lo sarà SID, chissà. No, insomma, chiamiamolo SID, secondo me è SID. Amico, oramai siamo amico SID. Infatti, Jans, SID, tutto italiano, esatto. Bello, mi piace, una faccia, una razza. Ma io poi penso veramente di tutte le persone che conosco, nessuno si è mai posto il problema, è Sid, basta. Cioè. No, ma Sid sicuramente. Sarà sicuramente così, ok, vai. Allora, la prima cosa importante è che disponeva di 3 canali, cioè di 3 oscillatori indipendenti programmabili, ognuno dei quali ha un range di azione dai 16 ai 4000 Hz. Che cosa significa l'oscillatore? L'oscillatore essenzialmente è un generatore di tensione variabile, che praticamente alza o abbassa la tensione in modo da generare un'onda. Se noi adesso guardassimo un file sonoro vedremmo un sacco di linee verticali, però se andassimo a semplificare sempre di più potremmo partire dalla sinusoidale, cioè credo che ce l'hai in mente sia tu che il nostro pubblico, nel senso un valore che sale e scende in maniera ondulata. Gli oscillatori digitali tendenzialmente, pur nascendo da oscillatori sinusoidali, generano delle onde un po' più tra virgolette complesse, E nella fattispecie gli oscillatori del, come si dice, del SID consentivano di avere quattro tipi differenti di forme: il triangolo, il quadrato, il dente di sega e il rumore. Significa fondamentalmente, partiamo dal quadrato, cioè il pulso, alzare la tensione, tenerla in alto, poi abbassarla, un po' come se ci fossero dei gradini, presente? Mm-hmm, certo. Ok, questo è l'onda quadra. Il triangolo invece sale, arriva al picco, poi scende, sale, arriva al picco, poi scende, cioè come se fossero appunto tanti triangoli che vanno di seguito l'altro. L'onda a sega è essenzialmente un'onda che sale e poi cade repentinamente, uipu, uipu, uipu. E poi invece il rumore invece è più casuale. La combinazione di questi oscillatori consente di creare effettivamente un grande range di armoniche. Teoricamente parlando, se noi avessimo un infinito numero di canali con uno qualsiasi di questi oscillatori, si potrebbe ricreare qualsiasi forma d'onda. In realtà, avendone solo tre di canali, le cose sono un pochettino più complicate, però la modifica veloce delle, come si dice, della forma d'onda, dei volumi, delle cose, consente di realizzare degli effetti sonori non indifferenti. Infatti la cosa interessante, un altro punto di forza, è che oltre ad avere queste forme d'onda programmabili, piccolo passo indietro, teoricamente la forma d'onda massima era di 4 kHz, cioè che non è molto, molto elevata, diciamo che è poco superiore alla massima frequenza telefonica. Però dato che si lavora con delle onde spigolose, proprio questi spigoli, quelli dei triangoli, quelli dei quadrati, consentono di avere delle armoniche molto elevate, per cui si può arrivare veramente a livelli superiori ai 10-15 kHz. Detto questo, oltre a questo ci sono anche dei filtri che potevano essere programmati, che erano un filtro passa basso, passa alto e passa banda, il che significava non soltanto avere queste onde quadre, ma anche filtrare onde quadre a triangolo e a dente di sega, ma anche di filtrarle in modo da avere degli effetti sonori che cambiavano nel tempo, e avere anche valori di attack, decay, sustain, release, cioè nel senso i quattro momenti di un suono, che potevano essere modificati indipendentemente per ogni oscillatore. Questi quattro momenti sono: l'attacco è quando la nota parte, plum, il decay è quando la nota, dopo essere partita, va verso la stabilizzazione, il sustain quando si stabilizza, e il release quando la nota viene lasciata e si abbassa il volume alla fine. Cioè il poter regolare anche questi quattro valori qui consentiva di avere degli effetti sonori molto molto molto molto molto complessi. Dava più dinamica. Esatto, questo consentiva di realizzare degli effetti sonori e delle musiche molto molto ricche, che è molto, variegate, al punto tale per cui c'è, cioè, anche imparare a utilizzare tutti questi filtri, tutte queste combinazioni, ci volevano degli anni per i musicisti per impararle tutte. Infatti le musiche si evolvono, e vedremo poi più avanti come ogni musicista ha sfruttato queste singole peculiarità per creare il proprio tipo di sonorità, il proprio tipo di timbrica, e avere una grandissima varietà di musiche, di effetti sonori, cose che prima non c'erano, nel senso, diciamo che tutto si assomigliava un po'. Qui invece in realtà ogni musicista, veramente musicista, imparava dei virtuosismi, non tanto perché muoveva velocemente le dita o faceva delle cose, ma più che altro perché capiva come sviluppare, come programmare questi chip per fargli fare delle cose per cui magari inizialmente non erano neanche pensati. Per cui abbiamo queste grandi potenzialità. Ultima cosa che aveva questo chip, che insomma diciamo che era diventato, non era essenzialmente soltanto un chip sonoro, era, nella maggior parte dei casi era un chip sonoro, però poteva essere utilizzato, aveva due convertitori analogico-digitale a 8 bit, il che significava che poteva essere utilizzato per digitalizzare dei segnali. Inizialmente veniva utilizzato per digitalizzare i segnali del joystick e poi del mouse, e tendenzialmente poteva anche utilizzare questa parte qua era stata pensata inizialmente per poter essere utilizzato in cascata con altri chip sonori, in modo da altri SID, in modo da avere degli effetti a catena, diciamo. Poi la maggior parte, in alcune schede sonore e in alcune tastiere è stato utilizzato così, però nella maggior parte dei casi insomma era stato utilizzato all'interno di questo computer solo per questo. E infine aveva come si dice, un generatore di numeri casuali, che fa sempre comodo, perché altrimenti è sempre un casino generare numeri casuali. Tu sai benissimo che il grande dilemma dell'informatica è la generazione di numeri casuali, perché il computer è deterministico di suo, per cui generare numeri casuali è sempre una cosa positiva e comoda. sì, diciamo, facciamo finta che lo so, insomma. Beh, sai, se tu compri un libro di algoritmi, c'è in quasi tutti i libri di algoritmi, non faccio altro nella mia vita, assolutamente, troverai un capitolo che è appunto per come si generano numeri casuali, perché il caso all'interno di un computer non esiste, bisogna partire, di solito si parte dal timer, nel senso praticamente il timer parte al momento del boot, del lancio, e questo inizia a contare e diventa il seme di un generatore di numeri casuali che appunto viene passato attraverso un randomizzatore, cioè un algoritmo che a partire da un numero genera altri numeri e insomma è così via. Però diciamo, questo potrebbe portarci lontano, sicuramente Sant'Agostino ne sa meglio di me, per cui sì, lasciamo parlare chi ne sa. Allora, abbiamo parlato del SID, prima di parlare effettivamente dei videogiochi facciamo un altro, insomma, ovviamente qui non vogliamo addentrarci sin troppo nella parte tecnica, perché probabilmente gli ascoltatori potrebbero dire sì vabbè, ma anche sti cavoli. Ci sono sempre due facce degli ascoltatori, quelli che dicono sti cavoli e quelli che dicono ma mi hai detto pochissimo. Sì, no, ma infatti io metto le mani avanti, cosa che a me piace moltissimo, perché fantastico, sì. Mi dimenticherò sicuramente delle cose e sicuramente delle musiche che noi proporremo mancheranno alcuni che sono dei capolavori assoluti. Noi abbiamo cercato di riassumere un po' quello che è stato il panorama e i musicisti più importanti, però so benissimo che avrò dimenticato qualcosa, che avrò tralasciato qualcos'altro, chiedo scusa a priori, scriveteci e noi vi diremo sì, avete ragione. Cioè, esatto, al massimo quello possiamo fare. Diciamo subito che metteremo nelle note dell'episodio, questo è importante, un link dove potete trovare, o magari forse anche sì, un link comunque dove potete trovare, insomma, diciamo un elenco, diciamo c'è cioè un deposito dove ci sono appunto delle musiche tra le più importanti relative al Commodore 64. Diciamo anche che penso daremo poi il servizio pure per poterle ascoltare, perché allora ci sono delle, diciamo che i file che possiamo trovare o che potete trovare anche liberamente da soli in rete facendo anche delle piccole ricerche sono in formato SID, chiaramente, perché cioè nel senso vengono proprio estratte l'immagine evidentemente del codice. Ora non qua, so bene. Qua ti correggo io, ecco, perché il bravo. Formato si scusami no, vai, no, ma... fai bene perché sai io dico cose nel senso per quello che vedo che comunque un file SID suppongo che sia in una certa maniera, poi non so realmente. Allora, non c'è mai stato un formato di file, come dicevo prima, perché tendenzialmente ognuno si programmava il SID a modo suo. È stato redatto a posteriori, dopo la fine del Commodore 64, per l'emulazione. Praticamente il SID, diciamo che per certi versi è una catena di comandi del chip, però un pochettino più organizzati, e per nella maggior parte dei casi ho visto che ha una struttura simile a quella dei tracker. Non so se ti ricordi, i tracker hanno avuto grande successo con l'Amiga, erano praticamente dei programmi di editing musicale che stavano a metà strada tra appunto la notazione vera e propria e la programmazione. Io stesso ne ho utilizzato uno, si chiamava Octamed, ai tempi dell'Amiga, però diciamo che tutti i soundtracker avevano questa struttura in cui non si leggeva la musica orizzontalmente con lo spartito, ma verticalmente, in cui ogni singola cellina aveva indicazione della nota, dell'ottava della nota e dell'effetto sonoro da applicare. Con delle varie tabelle che si susseguivano. Ancora oggi questa cosa funziona tantissimo, perché i tracker nella scena underground sono utilizzati tantissimo, non soltanto negli emulatori di Commodore 64 Mega, ma anche per scrivere musica per il Game Boy, quello che fa Fabio Bortolotti. Sì. Utilizza un tracker, insomma è una grande follia usare un tracker con una console, perché appunto non hai tutte le non hai la tastiera, hai soltanto dei bottoncini, però diciamo lui riesce a fare delle cose grandiose. Poi, e comunque è maestro nella sua arte, esatto. Comunque ripeto, trovo grandissimi musicisti che scrivono musica insomma, ho trovato musica degli anni 2000, dal 2010 in poi, sempre per il SID, sviluppate con questi tracker che fanno insomma senti delle cose e non sembra proprio di sentire un computer a 8 bit, ma proprio una console, non dico dell'ultima generazione, ma poco ci manca. Per cui diciamo che questo è il formato SID, è stata una sorta di standardizzazione che ha consentito di mettere in un formato interscambiabile colonne sonore originali, cioè quelle che c'erano a suo tempo, in modo da rendere le cose un pochettino più come se fosse una sorta di opcode, diciamo così. Guarda, la semplifico io per la gente come me, no? Quelli un po' più, cioè in realtà con la nascita degli emulatori in generale, ovviamente tutte quelle che erano le immagini dei giochi o via dicendo dovevano essere codificate, diciamo, dovevano essere comunque sviluppate in un determinato formato, perché ovviamente oggi tutto funziona a file, estensione dei file, cosa che magari prima non era proprio così. Quindi ecco, c'era l'immagine disco oggi ci sta l'immagine ovviamente del SID, che può essere letto dall'emulatore del SID, chiaramente. Questo è un po', quindi metteremo poi anche i cazzi imperi, insomma, per poter trovare ovviamente magari l'emulatore del SID, per potersi ascoltare. Poi non so se ci sono addirittura dei convertitori o sì sì genere, in realtà già con il programma più utilizzato, e ve lo diciamo subito ma ci sarà anche nelle note dell'episodio, si chiama SID Player. Mm-hmm. Che c'è sia per Mac che per PC, lo potete scaricare, è un freeware open source e consente anche di effettuare la conversione dai file SID a file MP3 o WAV, insomma tutto quello che volete voi, cioè funziona perfettamente. Non solo, ma ci sono anche dei tracker che possono essere scaricati, anche questi open source gratuiti. Il più utilizzato si chiama Goat Tracker. Goat sta per pecora, se non sbaglio. Sì, Goat, sì. Ed è potete scaricarlo. Goat Simulator, quindi è... Esatto, Goat Tracker. Per cui, cioè, nel senso, vi diamo tutte le indicazioni nelle note dell'episodio. Se volete iniziare a provare a sviluppare musica, e se vi ricordate qualcosa dei tracker dai tempi dell'Amiga, diciamo che può essere una cosa fattibile. E allora, scusa, l'ultima cosa, questo repository che l'abbiamo trovato su Skytopia, lui contiene le 50 musiche di Commodore 64 più belle, insomma, votate dai loro utenti. Noi non le abbiamo messe tutte 50 come nei videogiochi, come abbiamo parlato nei videogiochi nella puntata scorsa. Ne abbiamo trovate alcune che sono quelle che secondo noi sono più significative. Riconosco che sono i nostri gusti, insomma, potreste dire cacchio, avete dimenticato questo, come avete l'abbiamo fatto, sono i nostri gusti. Se non vi va bene, ne potete farvi un podcast voi con la vostra puntata. No, ma cioè, vabbè, questo l'abbiamo detto anche la puntata scorsa, abbiamo parlato di giochi, no? In realtà noi, proprio per non poi allora, o prendi la decisione comunque per quello che sono poi il proprio ricordo e quindi i propri gusti personali, oppure cerchi di trovare degli strumenti più oggettivi, che anche quelli non lo sono, perché sono comunque frutto di opinioni soggettive, che sono quelle magari delle classifiche delle persone, ecco, come abbiamo fatto noi con Ridi 64, con i videogiochi abbiamo preso i 25 giochi o i 50 giochi più apprezzati dagli utenti, e che tra l'altro è una classifica ancora in evoluzione, infatti che ci ha fatto anche notare alcuni ascoltatori mentre che ascoltavano la puntata, hanno anche notato quanto da quando abbiamo registrato noi a oggi la classifica è già comunque sostanzialmente cambiata. Comunque, prima di entrare nel vivo, vi dico solo una cosa. Abbiamo allgamesitalia.net, ovviamente il sito che ovviamente noi coproduciamo questa trasmissione. Non abbiamo fatto poi i riferimenti all'inizio puntata perché penso che ormai... Ma no, basta, ormai tanto sì, finisce che... Esatto, infatti allgamesitalia.net, dove cercatevelo ovviamente su Facebook, fate anche mi piace sulla pagina, per salutare Archeologia Videoludica si è inventata ovviamente un contest, e soprattutto legato al fatto che vogliono salutare Archeologia Videoludica e ricordare il Commodore 64, hanno fatto questa sorta di iniziativa, ossia chiedono agli utenti di mandare tramite messaggio privato sulla page, perché poi mi sono documentato bene nel frattempo, e praticamente mandare un messaggio privato ricordando praticamente il proprio gioco preferito su Commodore 64, mandando due righe di descrizione del gioco, il titolo del gioco chiaramente e un'immagine di riferimento. Queste immagini verranno poi successivamente pubblicate, quelle che riceveranno i like, il maggior numero di like diventeranno ovviamente, anzi otterranno praticamente delle Steam Key per poter poi ovviamente poter scaricare su Steam dei videogiochi che ora poi saranno scelti chiaramente da All Games Italia, e dei quali ovviamente non ho potuto insomma avere nessun tipo di riferimento, ma sicuramente dei giochi gagliardi e tosti, come insomma di solito si discute sul forum. Nel frattempo potete anche andare su www.allgamesitalia.net e iscrivervi anche al forum. Questo è insomma il contest podcast che loro si sono inventati e che noi ovviamente abbiamo apprezzato tantissimo, e quindi è giusto insomma fare dare voce a questa cosa. Poi prima ovviamente della chiusura di questa sessione con Alex Recuglia tornerò insomma a ricordarvelo. Allora Alex, entriamo quindi si entra nel vivo praticamente. Guarda, prima di entrare nel vivo però vorrei rispondere a una tua domanda che mi hai fatto privatamente, sì. Di cui si è parlato spesso, è la realizzazione di voci sintetizzate con il SID. Allora, ovviamente il SID non era pensato per riprodurre voci sintetizzate. Facciamo un paio di passi indietro. Il SID nasce nell'81 per la Commodore Max, poi diventa Commodore 64, e mentre la musica digitale di alta fedeltà nasce nel 78 con il CD della Philips. Esatto. Ti ricordi? Sì. Okay. Il CD della Philips, che al suo tempo costava una milionata almeno un lettore, aveva una caratteristica molto buona per il tempo, che resiste tuttora a oggi a quasi 40 anni, che è insomma ogni canale, due canali stereo, era campionato 44.000 volte al secondo con una quantizzazione di 16 bit. Questo significava che un CD-ROM, diciamo un CD audio, aveva dentro 650 megabyte di musica, di dati con ridondanza, infatti alla fine era quasi un gigabyte lo spazio effettivo di un CD. Questa cosa dice del 44 kHz, tra l'altro è ancora uno standard oggi. Sai, non ho mai capito, non ho mai capito perché 44, perché diciamo che sopra i 20 kHz, cioè sopra i 40 kHz, la soglia di udibilità di una persona non c'era. Detto questo, facciamo il paragone 650 GB contro il 64K del Commodore 64, cioè nel senso la musica digitale esisteva già, la musica di alta fedeltà digitale esisteva già, era praticamente impossibile rifarla con gli strumenti dell'epoca, perché ripeto, stiamo parlando di 64K, la maggior parte della gente aveva un computer che si caricava con le cassette, capisci che non era un ordine di grandezza, era un altro universo. Ed era praticamente impossibile pensare a suo tempo di realizzare un chip che riproducesse voci sintetizzate. Ma perché appunto non solo, ti dico, a un campionamento del genere, quello ovviamente dei CD, ci sono voluti a livello domestico, sono voluti almeno 10 anni poi per poter fare un campionamento di quello, e poi poco perché lo spazio era quello che era. Esatto. Infatti, inizialmente solo i giochi con CD-ROM potevano permettersi voci sintetizzate. Come sono riusciti? Però insomma qualcuno ha detto possiamo farlo, abbiamo la tecnologia per farlo anche con un SID, com'è possibile? Questa è la citazione, possiamo esatto, farlo. Esatto, esatto. Al tempo dei videogiochi, a suo tempo, cioè mille anni fa, il primo trucco che è stato realizzato, che è stato trovato, era quello di riuscire a campionare il suono, cioè trovare modo di campionare il suono, anzi di riprodurre un suono campionato, modificando molto velocemente il volume. Praticamente la prima versione del chip, del SID, aveva un difetto di fabbricazione per cui c'era una sorta di tensione attiva anche quando il chip era essenzialmente spento, quando tutti i canali erano spenti. Modificando il volume molto velocemente si poteva effettuare effettivamente la riproduzione di un suono campionato. I difetti erano dovuti al fatto che il regolatore di volume aveva 16 valori, per cui 4 bit. Di conseguenza la qualità della quantizzazione era molto molto bassa, però questo consentiva di avere degli effetti sonori comunque sentibili, e non solo, nel senso questa cosa necessitava di una certa quantità di memoria. Infatti credo che soltanto i giochi su CD potessero avere questa cosa, e comunque una grande floppy disk, diciamo. Su floppy disk, chiedo venia, vecchiaia. Vabbè, ma sì. Estate fa caldo e soprattutto c'era anche una grande vaffanculo comunque. No, ma vorrei dire essere preciso. E soprattutto c'era una necessità di cambiare questo volume sempre velocemente, di conseguenza c'era un grande impiego della CPU. La seconda la revisione del SID ha risolto questo bug, questo che era un bug hardware, per cui non era più possibile utilizzare questo tipo di sintesi, e di conseguenza diciamo che c'è stata una come si dice l'idea è stata quella di utilizzare un altro trucco, praticamente invece di utilizzare questo che sarebbe stato il quarto canale, perché veniva fuori il volume sempre così, di utilizzare uno dei canali utilizzando la codifica PWM, cioè Pulse Width Modulation, in modo da variare continuamente questo valore di acceso spento, in modo da riuscire ad avere una sintesi. In questo caso si utilizzava un canale, il tempo di, cioè, la capacità di elaborazione era ancora elevata, e soprattutto però con lo stesso chip era possibile avere una codifica 8 bit, il che significava avere una qualità audio pari, diciamo, quella dell'Amiga, per dirti il termine tecnico. L'ultimo trucco che è stato scoperto dai super nerd della musica, che utilizzano il SID, è venuto fuori molto dopo la fine del Commodore 64, è una cosa di qualche anno fa, credo che sia degli anni 2000 e rotti, che in pratica si chiama tecnica Vicious e utilizza due canali. Utilizzando due canali, mettendoli in fase e in controfase, in modo da alzare ad abbassare l'ampiezza della codifica, e questo consente di avere dei campioni a 12 bit. Tu pensa ad avere campioni 12 bit su un computer a 8 bit, che è una cosa assolutamente di fantascienza, che significa che questo chip è stato talmente squartato nelle sue capacità da andare ben oltre i suoi obiettivi originari. E questo per farvi capire quanto l'amore per questo piccolo oggetto di hardware è stato tale per cui ancora oggi c'è gente che scrive musica, che scrive software per questo componente, e cerca di trovare dei sistemi per sfruttarlo anche più di quello che si pensasse. No, ma infatti, perché molti poi fanno magari riferimento all'epoca in cui adesso va di moda il vintage, quindi c'è questa specie di rivisitazione, diciamo, del passato. In realtà l'amore per il Commodore 64 e annessi e connessi è più rapportata proprio al fatto di quello che faceva questo strumento, piuttosto che una cosa un po' fine a se stessa. Io però qui vorrei fare una precisazione, anche se è un po' fuori scaletta, questo è il mio dubbio, forse qui mo te metto un po' in crisi, però sono un po' stronzo e quindi mi piace. In realtà c'è una sostanziale differenza tra sintesi e digitalizzazione, giusto? Sì. Ok, cioè nel senso, quello che faceva il Commodore 64, ovviamente tramite le tue descrizioni, era il poter sintetizzare, quindi emulare sinteticamente un qualcosa, come, che ne so, in questo caso stavo parlando anche della voce umana. Quindi tu digitavi praticamente sulla tastiera ciao Alex, e il Commodore 64, tramite software, quello che era, insomma, roba del genere, quello che, insomma, dicevamo prima con Alex, leggeva questa frase, quindi ciao Alex, con la sua voce anche un po' inquietante. Ma il Commodore 64 aveva in potenzialità di digitalizzazione? Allora, teoricamente sì. Scusa, ti definisco, perché la voce che si sente in Impossible Mission all'inizio, secondo me quella è digitalizzata. Sì, ma può anche essere il caso. Allora, prima di tutto, teoricamente... A 4 bit, perché insomma, voglio dire, nel senso, è una merda, però, voglio dire... No, anche la parola Ghostbusters in Ghostbusters era digitalizzata. Allora, ci sono due possibilità. Una così, è che veniva digitalizzata con un altro computer, poi i campioni venivano filtrati in modo da arrivare a 4 bit, e poi dopo questa cosa veniva passata. Oppure poteva essere fatta una modifica hardware al Commodore 64 in modo da utilizzare la porta, la parte digitale, la parte di conversione analogico-digitale che abbiamo visto, quella che serviva per leggere i joystick, in modo da ad avere un convertitore. Cioè, comunque la conversione analogico-digitale è una cosa fattibilissima, per cui già nei primi anni 80, certo. Per cui niente di impossibile. Come l'hanno fatto non lo so, però ripeto, cioè nel senso, magari non digitalizzava, però poteva ovviamente tramite conversione riprodurre, ovviamente nelle sue quantizzazioni, cioè nel senso, nella sua potenzialità, riprodurre un suono digitale che ovviamente, insomma, era degradato al suo livello. Per questa cosa della sintetizzazione vocale era una gran figata, però io la prima volta che ho sentito una voce digitalizzata sono rimasto, cioè lo dovevi capire e intuire che era una voce digitalizzata, per carità di Dio, ma per noi era il non plus ultra della tecnologia super, super evoluta. Cioè, non so se tu ci hai mai avuto sta percezione, che è poi in realtà quella che forse ci hanno avuto in tanti, perché poi il computer che parla negli anni 80 e la fine anni 70, anni 80 era la cosa più inquietante del mondo. Cioè, assolutamente sì, mi potrei ricordare due cose: salve professor Falken, esatto, ma anche esatto. I am a Macintosh, cioè il primo Macintosh si presentava dicendo hello, bravo. I am a Macintosh, bravo. Sì, è stato, credo che inizialmente la cosa sia nata per il pubblico di massa come una ti faccio vedere qual è il futuro, che era anche una mossa più che altro di marketing per certi versi. C'è anche da dire che comunque lo studio della musica, del suono, della digitalizzazione, della sintesi vocale esiste dagli anni 60 probabilmente, prima certo. in ricerca magari militare, poi industriale, poi insomma man mano quelle ricerche sono decadute su per arrivare a livelli più consumer. Cioè quello che oggi è Siri è figlio di 50 anni di ricerche di altro oggi, tipo. E ancora oggi secondo me non siamo... No, cioè, siamo ancora lontani. Ci sono delle eccellenze rispetto al suo tempo fa, siamo ancora lontani. Perché facciamo proprio l'esempio, Siri e Cortana per esempio usano un sistema misto, in realtà non è una vera sintesi vocale, la maggior parte delle frasi sono preregistrate, quindi c'è questo aspetto anche che va tenuto in considerazione. Però ho sentito comunque dei sintetizzatori notevoli, ma rispetto all'epoca... cioè, perché io mi ricordo anche l'Amiga di default, cioè aveva l'applicazione che tu nel Walkman ci andavi là, scrivevi, e quella ma era più un vezzo, no? In realtà, che è una vera utilità. Mm-hmm. Perché la vera utilità, magari il sintetizzatore ce l'ha più oggi, magari che legge il libro per il non vedente, o via dicendo, ma in realtà allora, cioè, a malapena lo capivi quello che diceva, insomma, perché erano veramente un po' era inquietante. Come dici te, insomma, la citazione The War Games chiaramente era, perché anche lì poi il suono studiato bene, no? Cioè proprio messo in maniera che quella voce meccanica, no? Dura, che alla fine ti faceva paura, perché sai, ecco, mo questi computer conquisteranno tutto il resto del mondo e ci uccideranno a tutti. Cosa comunque, che succederà sicuramente prima o poi, certo, è chiaro, perché poi visto che gli studi su intelligenza artificiali insomma continuano, prima o poi Skynet arriverà. Allora, che come proseguire? Allora, beh, io vorrei mi sono preparato una sorta di piccolo compendio con una decina di musiche di videogiochi che secondo me sono state, se non le più significative, sono significative nel nostro percorso, per vedere come i vari autori hanno costruito le proprie sonorità, il proprio stile. Ecco, possiamo parlare anche di stile. Quando arriviamo a parlare di stile significa che c'è una maturità del prodotto, del progetto e dell'hardware, per cui nel senso l'hardware era al servizio del software, era al servizio dell'espressione tra virgolette artistica, passami questo termine. Che poi, se posso, ti interrompo, ovviamente scorrendo la lista, oltre ai giochi immortali sono anche nomi immortali, cioè comunque gente che veramente ha non solo ha fatto la storia del genere, ma che grazie a quello è rimasta nella storia, insomma. Dice, sono personaggi che ancora oggi, quando comunque lo citi, e poi ve ne renderete conto ovviamente quando Alex, poi dipende dal tipo di memoria che ci avete, veramente sono ancora mostri sacri che fanno parte appunto di quello che non è manco più una leggenda, è proprio, cioè, un dato di fatto, una corrente, insomma, un modo per essere stati immortalati, perché sono stati dei veri e propri maestri in questa arte, come dice appunto Alex, che può essere tranquillamente definita tale. Allora, io comincerei con tirando già subito un carico da 90, che è Chris Hulsbeck. Insomma, se conoscete un minimo di storia dei nomi che hanno fatto il Commodore 64 prima e l'Amiga dopo, Hulsbeck è uno dei capisaldi. Per farti capire, insomma, le sue musiche tra cui Atari Ken 1, 2, 3, Great Giana Sisters, sono state suonate al concerto di musica sinfonica da videogioco in Germania tra il 2003 e il 2007. Da un'orchestra sinfonica. Da un'orchestra sinfonica di Stoccolma. Che già solo quello, voglio dire, no? Per cui, ripeto, stiamo parlando di questo compositore, possiamo proprio parlare di compositore, perché lui ha tirato fuori da questi chip grandi cose. Non era, dal mio punto di vista, non era un virtuoso dell'hardware, nel senso che riusciva a tirar fuori degli effetti sonori che non erano proprio pensati, però il suo utilizzo dell'armonia e della progressione ritmica e melodica sono stati allucinanti. Voglio cominciare con un oggetto, una delle mie musiche preferite, quella di R-Type, un gioco della Irem, un gioco che ha fatto storia, tra il primo immortale che ha tirato fuori un certo tipo di estetica biomeccanica che poi ha influenzato tutti gli sparatutto da lì in avanti, anche nel mondo 3D, perché secondo me per certi versi molte cose di Doom sono ispirate a questo tipo di estetica. Insomma, R-Type inizia con una progressione tipica del periodo, accordi veloci che fanno contemporaneamente d'armonia e melodia. Ecco, una cosa di cui abbiamo parlato prima è che un singolo canale, alternando molto velocemente le note, poteva riuscire a costruire un accordo, quello che viene chiamato arpeggio, cioè le tre note non vengono suonate contemporaneamente ma una dietro l'altra molto velocemente, in modo da ottenere un effetto sonoro, un'armonia con un singolo canale. Questo tipo di arpeggio è caratteristico della musica, di questo tipo di musica elettronica, perché consente di variare velocissimamente da una nota all'altra e interrompendo la forma d'onda, oppure facendola evolvere cambiando la frequenza. Questa è una cosa che essenzialmente si può fare solo in digitale e non a livello umano, per cui è una sonorità tipica proprio di questi anni 80, di questo tempo. Insomma, ascoltatevi questa canzone, che ha tantissimi cambi di tempo e gli effetti sonori hanno sia una valenza percussiva sia esplosiva. Signore e signori, R-Type di Chris Usbeck. Era questo gioco ovviamente immortale, abbiamo sentito questo fantastico brano e, come ha detto giustamente Alex, Usbeck, cioè, alla fine era più musicista che tecnico, quindi era proprio un artista proprio vero, quello di quelli gagliardi e tosti. E a questo punto io, insomma, visto che la lista è bella cicciotta, andrei anche avanti. Ok, beh, sempre di Usbeck parlerei appunto di quello che secondo me è il gioco per eccellenza, e per quanto concerne le musiche, sia su 64 che su Amiga. E su 64 il primo di questa serie è stato una cosa devastante dal punto di vista tecnico, è Turrican. Non so se te lo ricordi, Tarkin. Certo, sì. Ti giuro, io ogni volta che ci penso ho la lacrima per quanto mi piace. Vabbè, insomma, Tarkin su Commodore 64 ha una musica epica. E come per R-Types, non fa della ricerca tecnica il suo punto di forza, ma insomma utilizza la sua capacità compositiva. Il suono di Usbeck è pieno, ricco, sia nelle frequenze che nelle armonie. Cioè lui utilizza praticamente delle sonorità tra virgolette basiche, passatemi le virgolette, ma le mette insieme stratificandole in maniera da creare qualcosa di veramente veramente pieno, cioè proprio un muro di suono, un muro di musica che ti viene addosso. E a partire dal minuto 10 circa parte un utilizzo di accordi veloci che appunto dà appunto l'effetto di due chitarre suonate all'unisono. È molto molto molto particolare e dal mio punto di vista per certi versi ricorda un certo tipo di musicalità, di melodie all'unisono che poi sono state il cavallo di battaglia di gruppi come gli Halloween o gli Iron Maiden per certi versi. Insomma, diciamo, il mio passato viene fuori e adesso ve lo beccate. Insomma, signori e signori, il capolavoro Tarkin. Dopo Chris Hulsbeck, un altro nome di quelli, cioè un altro insomma pezzo da 90, che è Tim Follin. Tim Follin, anche lui grande musicista, grande scrittore di musica dei videogiochi, che ha scritto musica per diversi formati, dallo Spectrum, Commodore 64, l'Amiga, l'Atari, ST, sì, e tutte le accozzaglie di Nintendo, fino ad arrivare al Dreamcast e alla PlayStation. Ah, vabbè, si è fatto... Sì, lui è stato insomma un inglese di sempre Inghilterra, Liverpool, sì, vabbè, un inglese di Liverpool. Sì, Liverpool e Inghilterra. come i quattro scarafaggi. Esatto. Insomma, passiamo dalle musiche, dalle sonorità di Ulsbeck a altre sonorità che sono quelle che sono completamente differenti, perché appunto ci piace far saltare di palo in frasca, perché Tim Follin è un musicista che ha fatto della, insomma, del chip sonoro del Commodore 64 un terreno fertile per una ricerca, al punto tale che per cui, cioè, le strutture musicali, armoniche, ritmiche delle sue composizioni hanno molto più a che vedere con la musica rock progressiva, oppure anche proprio la musica classica, non classica, la musica sinfonica contemporanea, piuttosto che con la musica elettronica. Infatti, come potete sentire fra poco col primo titolo, che è Bionic Commando, cioè l'utilizzo delle percussioni è tipico della musica contemporanea, musica percussiva contemporanea, è una struttura ritmica che, pur essendo un 4 quarti, è molto molto difficile da seguire. Ascoltate un po'. Sta musica, vabbè, è tipo questa è proprio ricerca musicale, cioè, molto sperimentale, sì. Sì, sperimentale, pensare che sta roba qua era in un videogioco, poi dopo, oggi non le fanno più roba del genere. Ecco, dopo Bionic Commando, cioè, immaginatevi questo un videogioco dalla metà degli anni 80 con questo tipo di musica. Oggi nessuno riuscirebbe a fare una cosa del genere. La cosa interessante è che più si va avanti col tempo, più la massificazione appiattisce un pochettino la ricerca sperimentale. Cioè, questa è una musica assolutamente sperimentale e oggi nessun editore, nessun publisher direbbe direbbe ok, è una cosa del genere, ma sei pazzo, mettiamoci una canzone, sì, dei Linkin Park piuttosto, capisci cosa intendo dire? Cioè, tutto deve essere abbastanza riconducibile, qualcosa di già sentito, perché una cosa del genere era assolutamente non dico amusicale, però quasi distraente dal videogioco. Insomma, con un parallelo un pochettino più ammorbidito, vi facciamo sentire anche la colonna sonora di Ghouls and Ghosts, che è il seguito di Ghosts and Goblins, esatto, in cui anche in questo caso il chip sonoro viene utilizzato per simulare inizialmente effetti sonori come l'acqua e la tempesta, sì, esatto, ma nel senso utilizzando le percussioni in una maniera completamente atipica e mostrando che Tim Follin, oltre ad essere un musicista sperimentale, è anche un programmatore sperimentale, perché utilizza il chip per simulare ed emulare qualcosa che di digitale non era. Insomma, Ghouls and Ghosts. La cosa veramente peculiare è che questi due brani, pur essendo estremamente diversi fra loro, nella parte ritmica comunque si sente proprio la firma dell'autore, cioè nel senso è questa, il fatto di poter riconoscere i specifici autori anche dal proprio stile, no? Dalla ricerca, nel modo in cui ovviamente facevano uscire il suono dalla macchina, che era poi la cosa più interessante. E vabbè, sì, insomma, pure qua l'intro e tutto quanto è assolutamente, assolutamente geniale, anche se il brano di prima, come abbiamo detto con Alex, era molto molto più sperimentale, molto più curioso, e pensare che stava in un videogioco è una cosa fuori di testa. Insomma, è vero che erano ancora anni, insomma, vicino agli anni 70, che erano periodi di grande sperimentazione. Ecco, come dice Alex, oggi non è più così, andiamo avanti a questo punto, no? Posso aggiungere una cosa? Come, visto, no, che il dibattito di videogioco arte, videogioco non arte, io credo che allora, quando il gruppo di persone che sviluppava un videogioco era più limitato, c'era un programmatore, sì, un coder, cioè eventualmente uno che faceva la grafica ed eventualmente uno che faceva gli effetti sonori, cioè era veramente tenevi una mano, e lì c'era secondo me molto più legame viscerale tra l'uomo e il prodotto. Oggi, quando vedi un gioco, io ripeto, ricitando Angry Birds, ieri mi sono guardato i crediti di Angry Birds 2, voi li ho scaricate su iPad o su iPhone o su un Android, qualsiasi, guardate i crediti, ci sono migliaia di persone, non sto scherzando, sì, migliaia, cioè nel senso non finiscono più, ho visto dei film con molte meno gente, cioè capisci, sì, sì, che è già più difficile pensare a un progetto artistico quando si è così in tanti, perché no, effettivamente non c'è nel senso, noi dobbiamo fare i soldi, abbiamo speso decine di milioni di euro per fare sto coso, dobbiamo riguadagnarceli, giustamente. In questo caso i soldi in questione erano meno, ed era quasi veramente anche scrivere videogiochi una sorta di gioco, cioè difficile pensare che uno magari ci diventava ricco, per cui c'era veramente un attaccamento empatico tra creatore e creazione, almeno questa è la mia visione, per cui posso capire che quel tipo di ricerca estetico-sonora appartenesse più a quell'epoca che quella di oggi, anche perché effettivamente c'erano molte più limitazioni, e ben si sa che l'arte vive di limitazioni. Se tu dai una limitazione a qualcuno, a questo punto il qualcuno, pur di esprimersi, sfrutterà ogni singola cellula del suo apparato nervoso per tirar fuori da queste limitazioni qualcosa di unico. Che belle frasi che dico. Alla fine, sì, no, assolutamente brividoni. Dico, cioè, in realtà questi erano i Beatles e quelli di oggi sono i Fragola, no? Nel senso che poi no, è così. Da è casa così, applaudito, cioè, tutti quanti. Perché in realtà è questo, cioè nel senso, oggi nella massificazione industriale e non c'è più l'intento artistico che c'erano questi. Questi veramente stavano lì e gli piaceva quello che facevano, no? Che è un po' la differenza, insomma, tra l'essere l'autore che oggi all'industria è costato 100 e ha guadagnato 1000 e che domani è sparito. Quindi è un po' questo, è un po' il grande discorso. Quindi continuiamo a sentire questa musica, che alla fine, cioè, non ci vergogniamo di dire che possiamo definirla buona musica, insomma. Sì, sì, sì, sì, sì. Allora, adesso altri due nomi, cioè praticamente il nome del fondatore, il gruppo che ha fondato, e tre esempi interessanti. Allora, lui è Jero Entel, spero di pronunciarlo bene, che è un compositore olandese, e ha fondato il gruppo Maniacs of Noise, che poi è diventato un gruppo di computer music pensato appunto per la scrittura di colonne sonore di videogiochi. Allora, vi presentiamo un trittico molto interessante. Ascoltando questo trittico capirete immediatamente che la mano, cioè compositiva dietro tutte e tre, è la stessa, perché effettivamente sentirete un altro tipo di musica ancora rispetto ai due autori precedenti, però uno stile molto molto molto particolare. Iniziamo con Hawkeye, che inizia con un giro d'accordi molto molto veloce, la parte ritmica e il basso, ha poi quella che si aggiunge, quella che potrebbe essere una quarta voce ghost, e la lead synth, cioè nel senso il sintetizzatore che la voce melodica. In realtà basso e batteria usano lo stesso canale, e il rullante è in realtà una progressione di note che consente di fare un accordo, cioè praticamente una ricerca stilistica, come dicevo, di limitazioni per poter avere un'espressione più unica e più insomma più stilistica dell'espressione dell'individuo. Ok. Evoluzione Savage o Savage, non ho mai capito se mai si dice Savage questo videogioco. È come Simone Andreozzi, questo. Esatto, che ha una voce campionata, ma anche una chitarra campionata. Infatti, nella prima parte non ci sono infatti, se voi analizzaste il file seed e ve li mettiamo a disposizione di questa canzone, vedrete che non ci sono proprio delle note suonate nei canali, ma c'è un cambiamento del volume repentino, che è quello che dicevamo prima, il cambio del volume su e giù, in modo da creare degli effetti sonori campionati, cioè sintetizzati, con questo trucchetto. Ascoltatevi Savage. Ok, il titolo precedente, cioè Savage, e quello che stiamo per presentare adesso, che sono Turbo Outrun, mostrano veramente lo stile di Geraint Tell. È uno stile sporco, perché lui utilizza questi effetti sonori che appunto sono assimilabili ai dei campioni, e dato che si lavorava a 4 bit, sono suoni molto, molto sporchi. La quantizzazione a 4 bit, noi che siamo abituati ad ascoltarne almeno 16 oggi, cioè ti fa veramente qualcosa di grezzo, come se fosse appunto scritto male col carbone invece che con una penna. Questa è la sua cifra stilistica, molto caotica, molto grunge per certi versi, ma che consente di avere delle sonorità completamente alternative. Ripeto, dopo Savage, Turbo Outrun, che ha anche questo, in questo caso, effetti di campionamento. Dopo Maniacs of Noise di Geraint Tell, un altro nome che probabilmente avrebbe meritato più di una canzone, però diciamo che questa qua che ho scelto è, dal mio punto di vista, l'emblema stesso di questo tipo di sonorità e qualcosa che poi ha influenzato o è stato influenzato da tutta una certa musica degli anni 80, ma anche degli anni 90, secondo me qualcosina anche negli anni 2000. Stiamo parlando di Martin Galway, Martin Galway è irlandese di Belfast, nato nel 66, è stato uno degli emblemi della musica del Commodore 64. Infatti diciamo che non è andato avanti più di tanto a sviluppare dopo il Commodore 64 a fare musica, però diciamo che alcune sue creazioni per questa macchina sono essenzialmente dei cardini, dei punti cardini. Giochi ne avrà fatti almeno una quarantina, dall'83 fino al 2000, però ovviamente la sua produzione, man mano che si passa dagli 8 bit ai 16 bit, si abbassa fino a un certo punto a sparire. Quello che vi presentiamo oggi è il suo, quello che viene considerato forse il suo cavallo di battaglia, la sua musica più famosa, che è Comic Bakery. Comic Bakery sfrutta i canali LC di maniera molto classica, molto ortodossa, e lascia che le onde di base facciano riempimento, cioè in modo essenziale sinfonico insieme. Adesso la progressione di accordi di questa canzone, che è quella di Comic Bakery, è un sol si bemolle fa sol si bemolle do, praticamente questi accordi qua che poi sono stati utilizzati nell'heavy metal da allora fino ad oggi per le musiche epiche. Insomma, ascoltate un po' e sapeteci dire. Il prossimo musicista è, diciamo che ha un nome meno importante rispetto a quelli che abbiamo indicato precedentemente, però è attivo ancora oggi e ha un progetto su Kickstarter per che si chiama Reformation. per fare il remaster delle sue colonne sonore del Commodore 64. Lui è Matt Gray e la colonna sonora che vi facciamo sentire è quella di Last Ninja 2, che utilizza la tipica progressione del tempo utilizzando il synth come un super basso, cioè delle note basse basse basse, ma dato che il volume è talmente alto le onde quadre si distorcono creando le armoniche alle alte frequenze. Insomma, ascoltate come un singolo canale può riuscire a dare tutto questo ampio spettro di musica. Last Ninja 2 di Matt Gray. Quindi progetto Kickstarter di rimasterizzazione, in che senso? Cioè, nel senso sempre con le sonorità 8-bit oppure proprio risinfonizzazione generale delle opere? Questa è una curiosità, poi magari mettiamo pure il link nelle note, così se volete essere dei baker. No, allora, dal mio punto di vista credo che sia proprio una ricostruzione con sonorità odierne, però utilizzando la musica di allora. È un azzardo una cosa del genere, insomma. Beh, diciamo che posso capire la voglia di uscire dai limiti di allora. Allora c'erano dei limiti, adesso non ci sono più. Effettivamente la musica, la produzione musicale è cambiata, per cui posso capire che si voglia far uscire la musica da questa scatolina. In alcuni casi la scatolina era proprio la cassa di risonanza della musica stessa, in altri casi la musica poteva essere una sorta di imbrigliata in queste limitazioni, e magari togliere le limitazioni consente di esprimerle di più. Cioè sono due scuole di pensiero che abbiamo visto entrambe in questa puntata di oggi. Come farla? Allora, facciamolo un bel in bocca al lupo a Matt Gray. Allora, via Matt Gray. Dai. Allora adesso passiamo a quello che è chiamato, forse è preso il più famoso dei musicisti dell'era 8-bit e dell'era Commodore 64, e le sue colonne sonore sono state nominate tra le più belle in quasi tutte le classifiche che abbiamo trovato, anzi in tutte le classifiche che abbiamo trovato. Magari alcune cose dal primo posto vanno al secondo e viceversa, però diciamo che sta sempre on top. E stiamo parlando di Rob Hubbard. Rob Hubbard, che da non confondere con Ron Hubbard di Scientology, no. Di cui noi ci prendiamo le distanze cosmico-siderali. Diciamo che parliamo di questo musicista che è nato nel 55, pensate che appunto negli anni 80 aveva già una sua... Era già bello grandicello. Aveva 35 anni, cioè, negli anni 80, per cui diciamo che aveva raggiunto una sua maturità. E le sue colonne sonore sono proprio l'emblema del tempo. Vorrei partire con quella che viene chiamata da molti la migliore colonna sonora di sempre. Io non credo che sia così per i miei gusti personali, però riconosco la sua unicità, cioè la sua emblemicità, se può dire. Cioè, diciamo che potrebbe essere considerato lo stemma di quel tipo di colonna sonora, che è Monty on the Run. Signore e signori, Monty on the Run di Rob Hubbard. Thank you. seguito di Monty on the Run è Auf Wiedersehen Monty, adesso la pronuncio proprio con la R tedesca. Auf Wiedersehen. Yeah. Che dopo l'intro inizia la parte ritmica, che è tipica del periodo, con gli ritmiche armonici insieme. È un'alternanza di bassi e alti, e soprattutto gli effetti di inviluppo sulle alte frequenze, un po' come se si aprisse un wah. L'inviluppo ci consente di aprire o chiudere le alte frequenze e di cambiare il filtro in modo da fare wow wow, questo tipo di effetto sonoro. Praticamente senza modificare l'onda, senza modificare la nota, si modifica la timbrica, in modo come se si aprisse e chiudesse qualcosa. Insomma, ascoltatevi. Sempre, cioè, se avete ascoltato queste due canzoni, la prossima che arriva, insomma, riconoscerete la firma di Rob Hubbard. E infatti anche One Man and His Droid, cioè, altro gioco che non è stato un gioco di quelli che ha passato, insomma, di quelli che è arrivato i primi in classifica, diciamo, come di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, però le musiche che sono state però ben impresse nelle teste e nelle orecchie di chi ha vissuto il tempo. In questo caso, cioè, abbiamo un inizio molto interessante, abbiamo solo la parte alta senza la parte bassa, la parte armonica a riempire. E poi dopo il primo minuto inizia una base ritmica che raddoppia il tempo e gli accordi sono talmente alti, cioè note talmente alte, in modo da avere un tappeto di suoni tipico simile a quello dei beat, un po' come se fossero degli effetti sonori, presente i beep beep beep beep dei computer degli anni 60. Sì. Lui utilizza questo tipo di sonorità mettendole in musica, mettendole in melodia e armonia, insomma, ascoltate. Infine l'ultima canzone di Rob Hubbard che abbiamo scelto, avremmo potuto metterle tutte, però ragazzi, cioè, non avremmo fatto una monografia su ognuno di questi autori. Insomma, dicevo, l'ultima canzone di Rob Hubbard è Spellbound, che utilizza l'inviluppo per creare l'inviluppo dei filtri per creare sonorità che si aprono e si chiudono, una sorta di evoluzione continua rispetto alle musiche che abbiamo visto fino adesso. Spellbound. Passiamo adesso a Charles Dinen, anche lui è associato a Maniacs of Noise, e ascoltate invece come lui utilizza gli effetti sonori della musica come una base ritmica e le percussioni e i cambi di ritmo. In questo caso After the War, videogioco di cui possiamo quasi dimenticarci per certi versi, e adesso qualcuno mi tirerà le uova a marce, però ha una colonna sonora molto molto molto particolare e un altro tipo di impianto estetico. Ascoltate. Vai tranquillo, che nessuno dirà le uova, perché se te le dirà a te ne devo dirare anche a me, perché After the War non so proprio che cosa sia, però oh ragazzi, però c'è un'altra mi pare, no, giusto? Sì, l'ultima canzone è di Rain O'Hand, che non so che cavolo sia, che ha però il suo canale YouTube vero e proprio, in cui mostra appunto la sua lui che suona. E uno dei suoi, cioè abbiamo messo questa colonna sonora, la colonna sonora di Last Ninja 3, più che altro perché utilizza, oltre al fatto di aver utilizzato una struttura ritmico-armonica molto simile a quelle di altri che abbiamo già visto, utilizza dal terzo minuto in poi alcuni filtri per creare una distorsione boxed, cioè nel senso come se fosse inscatolata per il suono, il lead principale, il che porta l'effetto sonoro a somigliare più a quelli di una chitarra rock blues piuttosto che a quella di un synth digitale. Last Ninja 3. E sulle note sfumanti di Last Ninja 3, a questo punto abbiamo concluso questo bellissimo percorso che Alex si è studiato e ha costruito. Poi ribadiamo ancora una volta, lo ribadisco anch'io, non solo perché tendo insomma a essere protettivo, ma in generale, cioè, questo è un percorso che chi ha ideato la puntata ha strutturato in virtù degli autori che vengono ritenuti i migliori e soprattutto i brani che sono più significativi anche dal punto di vista tecnico. Quindi non cominciate a dire ah, ma te sei dimenticato, non ci hai messo quello o quell'altro, perché veramente non è cosa, soprattutto non ci interessa. Noi abbiamo voluto fare un percorso che era funzionale oltre che semplicemente artistico. Abbiamo sentito pure un bel po' di musica che ci ha fatto piacere. Mo, non so, qualcuno di voi magari si è fatto pure due zompetti, che non fanno mai male, ma sicuramente abbiamo ascoltato musica bella che alla fine, come dicevamo con Alex, insomma, si sente veramente più poco, alcune veramente molto sperimentali, altre sperimentali dal punto di vista tecnico, perché comunque avevano uno strumento che potevano plasmare, si sono divertiti sicuramente a farlo. Alex, se vuoi fare un commento finale a questo percorso, questa camminata che abbiamo ideato, anzi che hai ideato. Beh, allora, come hai detto tu, cioè questa non è soltanto una punta di un iceberg infinito. La cosa interessante è che non, cioè nel senso, se qualcuno vuole approfondire, i link che mettiamo nelle note dell'episodio dimostrano effettivamente il mondo intero. Non solo, ma se scaricate Seed Player, lui si connette automaticamente a un database di circa, cioè alcune migliaia di canzoni, che appunto sono quelle non solo dei organizzati per compositori, per giochi, ma che appunto vedrete anche compositori che scrivono musica anche dagli anni 2000 e rotti in poi, anche musiche composte recentemente, qualche mese fa, in modo da farvi capire cosa si poteva e si può fare con questo chip. Anzi, forse oggi, a distanza di 35 anni, probabilmente anche la tecnica, no? Quindi il modo di sviluppare tecniche sarà anche migliorato, probabilmente. Sì, sicuramente, ripeto, ovviamente, cioè, più tempo si passa a studiare qualcosa, più se ne conoscono i segreti e anche le backdoor, come appunto è possibile fare musica campionata con un chip che non era pensato per questo. Il nostro percorso, certo, era più che altro per farvi vedere alcuni autori, gli stili che avevano proposto e soprattutto cosa riuscivano a fare con un computer 30 anni fa. Ripeto, 30 anni fa, molti ascoltatori probabilmente non erano neanche nati 30 anni fa, cioè noi avevamo 10 anni, per cui era un altro mondo. Eravamo ancora in età premasturbativa, però esatto, ci masturbavamo con altre questo, cose. Esatto, no, perché poi dopo erano veramente fighi. Bene, bene, bene. Allora vi ricordo ancora una volta, prima di andare insomma alla ciccia finale, che per salutare Archeologia Videoludica e soprattutto per ricordare il Commodore 64, allgamesitalia.net, tramite la sua pagina Facebook, cercatela e fate mi piace ovviamente, ha indotto un piccolo concorso che mette in palio alcune chiavi di Steam per poter scaricare alcuni videogiochi. È semplicissimo partecipare, semplicemente basta mandare un messaggio privato alla pagina con il titolo del vostro gioco preferito su Commodore 64, due righe di descrizione e una immagine. Poi ovviamente quello che verrà pubblicato, quelli che otterranno più like ovviamente riceveranno proprio dalla pagina insomma delle chiavi di Steam per poter scaricare giochi che non so quali, quindi non mi chiedete ah ma quali giochi, perché quella insomma poi lo decideranno loro, perché il concorso è fatto da loro, noi lo appoggiamo riccamente, ci fa anche molto piacere e via dicendo. Allora, adesso noi chiudiamo con Alex e subito dopo c'è quello che io ho considerato un atto dovuto, insomma, vado a richiamare, insomma, a rievocare persone che di archeologia videoludica hanno fatto la storia, soprattutto perché l'hanno fondata, diciamo così, e faremo questo saluto finale, che commenti, insomma, atti dovuti. Però giustamente, dato che questa è arrivata questa ultima puntata, è arrivata anche per Alex, insomma, perché poi l'abbiamo trascinata, cioè vabbè, facciamo questo speciale, due puntate, ma no, famone tre, ma no, famone quattro. E, Alex, ti lascio a te, insomma, il tuo saluto finale, e poi passiamo, mi passo la linea dall'altra parte. Allora, io ho iniziato ad ascoltare archeologia videoludica prima di presentarla per un breve tempo, e mi ha dato tanto. Devo dire che per me era un viaggio alla scoperta e alla riscoperta. Inizialmente più alla scoperta, perché alcune cose che venivano raccontate dal professor Jones erano successe prima che io nascessi, però mi piaceva il tono descrittivo, che lo faceva diventare una sorta di Piero Angela, però molto più interessante e anche più ironico, per cui era come se io li vedessi, io ascoltavo questi podcast intanto che mi allenavo, era come se li vedessi veramente. Poi ho avuto l'onore, veramente l'onore e il piacere di poterci partecipare, di raccontare alcune mie esperienze, tra le puntate più belle, sono state perle importanti, quella di Vectrex e quella di Elite, che sono state, insomma, tra le più considerate. Questo mi fa pure piacere. Grazie davvero, grazie chi l'ha detto, e grazie a voi di avermici fatto partecipare. Ed io sono stato bene. Questa è stata una casa con dei bellissimi colori, ecco, me la ricordo, una casa con dei bellissimi colori. Io non so cosa succederà ad archeologia videoludica, se si chiamerà ancora così, se esisterà ancora, se ci sarà un post Commodore 64. Vorrei ringraziare tutti voi, da te, Marco, Giuseppe, Roberto, e tutti gli altri che hanno partecipato, magari quando non c'ero io, e ringraziare tutti quelli che hanno ascoltato, che ascoltano ancora adesso, perché mi avete dato l'occasione di vivere, di rivivere dei bellissimi momenti, e lo faccio, dico, veramente con una bella emozione, con una bella emozione che provo sempre più di rado, perché invecchio, e questo revival retroludico, però fatto con amore, non con analisi proprio soltanto chirurgica, mi ha dato veramente molto, e grazie, tantissimi baci. Beh, grazie a te, perché ci abbiamo provato, come poi diremo anche nel finale, non tutti l'hanno capito, ma insomma, vedi, è inutile mettersi poi a fa anche le storie durante l'ultimo episodio di questo podcast, che raggiunge una sua impasse, quindi raggiunge un suo momento in cui è giunto il momento di metterlo in pausa, metterlo in stop, metterlo, non lo sappiamo, in naftalina, dove lo mettiamo, poi vedremo quello che succederà. 5 anni sono tanti, e sono stati 5 anni, perché insomma, forse anche qualcosina di più, perché tra la preparazione, lo studio e tutto quanto, e alla fine sono stati veramente tanti, e dopo 5 anni forse c'è un momento in cui le cose faticano, no? Che quando faticano non vanno più bene. E poi, come giustamente ha detto anche Alex, e ribadiremo fra un poco nella parte finale, archeologia videoludica è mancato l'elemento che ne era il logo, che ne era poi la rappresentazione, ossia tutto quello sul quale era stato fondato, no? il loghetto col professor Jones che zompa la frusta, e senza professor Jones non aveva neanche più senso, tutto sommato, già graficamente non aveva più senso, quindi figuriamoci dal punto di vista poi tecnico, contenutistico. Quindi, detto questo, io ringrazio invece tantissimo Alex Raccuglia, perché comunque il suo supporto c'è sempre stato, poi ha dato anche un supporto dal punto di vista tecnico, ribadisco, tra le puntate più belle che ci sono state, e soprattutto quella di Elite è stata forse la puntata più sentita, perché non soltanto era preparata tecnicamente, ma era preparata perché c'è stava un pezzo di vita là dentro, quindi era qualcosa che ci è piaciuto tantissimo. E poi ringraziamo, come ringrazieremo alla fine, tutti gli altri che hanno comunque dato una mano a questo programma. Quindi Alex, grazie anche per questo episodio. Grazie a te, grazie a tutti. Se ne andiamo un po' in vacanza, però. Sì, adesso io proprio fra 2 ore parto. Benissimo, benissimo. Va bene. Ciao a tutti, e passiamo la linea giustamente alla parte finale. Ciao. Ciao. E alla fine è giunto finalmente, per certo punto di vista, diciamo, per me, perché insomma come si è capito in giro ne sentivo la necessità, però anche non finalmente, perché poi in realtà insomma, quando c'è un punto d'arrivo c'è sempre un po' di tristezza. Arriviamo dunque a questa conclusione di questo blocco di puntate dedicate al Commodore 64 e per ora, per un po' di tempo, per non sappiamo quanto e via dicendo, Archeologia Videoludica chiude il suo lungo ciclo di 5 anni bellissimi, tra l'altro è sempre in crescendo. Siamo partiti con le prime puntate dove tecnicamente non sapevamo come si faceva il compressore, fino insomma ad aver raggiunto anche buoni livelli anche come struttura. E ho pensato, e abbiamo pensato tutti quanti insieme, che era giusto rievocare un po' il vecchio team, ma proprio quello delle origini, proprio quello diciamo quello delle origini più quello delle origini dopo un po', no? Diciamo così. E quindi abbiamo riportato alla luce, tirandolo fuori da un sarcofago polveroso, Professor Jones, Giuseppe Scaletta. Ciao, cioè, mi hai tolto le parole di bocca, perché avrei detto esattamente questa cosa. Ho appena dischiuso un pochettino il coperchio del sarcofago. Stavo per essere sigillato. Ciao a tutti, come state? Noi stiamo abbastanza bene, speriamo insomma che stai bene tu, che insomma... Non mi siete mancati, non mi siete mancati perché vi ascolto, in podcast. Ah, ok, veniamo con le fiacche. Altrimenti me ne avate. Esatto, veniamo con le fiaccole. La nemesi storica del professor Jones è Marco Gualdi, il distruggitore. Salve, ti stavo per chiudere dentro, Peppe, però va bene, non c'è problema. Dopo ti richiudo, tranquillo. Mi metto a mani concerte e mi richiuderà. Che poi è bello che facciamo le presentazioni dopo 2 ore di podcast, praticamente sarà ancora qui a fare presentazioni. Ma... E c'è chiaramente quello che è stato un po' il valore aggiunto, o l'aggiunto e basta. Grazie a AllGamesItalia.net è intervenuto, ha cominciato a far parte dell'archeologia videoludica anche Roberto Bertoni. Ciao ragazzi, potete anche dire colui che ha fondato definitivamente archeologia, nel senso che... Colui che ha portato il ritmo nella sessione, diciamo. Anche adesso poi, come hai sentito, colui lui c'ha il lag incorporato, ce l'ha proprio dentro sta cosa. E quindi bene, è sempre un allora, piacere. Veniamo un attimo a noi, facciamo un attimo un piccolo, brevissimo racconto, di questa trasmissione che era nata con un principio che penso veramente in pochi hanno capito. E tra quei pochi ci mettiamo Gaustin Hunt, che poi dopo magari leggiamo anche quello che ci ha scritto, perché veramente sono anche un po' commosso, diciamo la verità, perché abbiamo detto appunto che la nostra intenzione era quella di raccontare la storia del videogioco scoprendola noi stessi e cercando di creare intrattenimento, sia uno show a forma, insomma, sotto forma di show radiofonico. All'inizio più o meno c'eravamo riusciti, poi c'erano puntate in cui ci siamo dilungati di più, puntate in cui ci siamo dilungati di meno, però abbiamo ricevuto anche tante critiche, Marco, insomma, che tu sei poi uno molto reattivo alle critiche, cioè nel senso tipo, ma questi non ne sanno un cazzo. Noi non sappiamo un cazzo. Non è che dobbiamo insegnare che si mettono a raccontare, stanno a leggere Wikipedia, Giuseppe, insomma, non hanno capito un cazzo, insomma. No, non hanno capito assolutamente. Ma questo è una delle cose su cui batti. Ho notato ultimamente moltissimo. Ma in percentuale, insomma, quanti avranno capito e quanti no, secondo te? No, in realtà vabbè, questa uno su 100 ce la fa. Diciamo la verità, che in realtà poi alla fine il programma ha avuto il suo bel seguito. Perché altrimenti avremmo fallito su tutti i fronti. Infatti. Bene, allora facciamo così: raccontiamo un aneddoto a testa, così una cosa, un momento importante che ci ricordiamo veramente con tanto piacere. Poi leggiamo alcuni feedback, veramente pochi, perché nei vari messaggi che ho ricevuto durante questi mesi, poi magari ringraziamo qualcuno, però in realtà non mi sono messo insomma a fare un veramente, se no non finiamo più. E poi ovviamente insomma diamo i nostri saluti, ma soprattutto a Giuseppe, che lui a un certo punto ha detto: ragazzi, io ho altro da fare, giustamente. Cioè, nel senso, è così, da un giorno all'altro. In realtà, no, in realtà non è stato. Vai. È stata una decisione molto sofferta, tu lo sai. Sono stato, c'è stato un periodo in cui sono stato assolutamente in bilico fra il restare e il mollare, cioè. Però, cioè, insomma, alla fine la decisione è stata più che ponderata. Trascinarsi, sì, sì, è stata ponderata, perché più che altro non volevo dare l'impressione di quello che si trascinava zoppicante attraverso le puntate. E poi anche perché avete fatto un po' i birichini. Ora, ma posso dirlo, dal momento in cui sono andato via dal podcast, questo Giappone proprio non l'avete cacato minimamente, no, scusando infatti anche il francesismo. Questa è una critica che faccio un po' al podcast in generale. Fino a quando c'ero io, ecco, un pochettino, un Nintendo Koyo Koyo lo facevamo. È così. Più che altro c'è. È mancata un po' l'anima giapponese, ma immagino che, insomma, d'altro canto, invece, gli argomenti che avete trattato di grandissima importanza abbiano comunque tenuto su alto il vessillo di questo podcast. Ma secondo me, forse, Roberto, non so se tu sei d'accordo, poi sentiamo anche Marco e pure Giuseppe, forse poi alla fine Archeologia videoludica era diventato molto, posso dire, qualitativamente forse anche superiore, perché era molto più strutturato, le rubriche e tutto quanto, i contenuti erano comunque molto ricercati, anche i collaboratori che hanno dato una mano, ringraziamo comunque sempre anche Mashiro, Giuseppe Saso, Santilio e tutta la gente, insomma, che ha collaborato. Però poi in realtà un po' aveva perso di spirito, aveva perso la sua verve iniziale, no? La sua non so, la sua anima in qualche modo. Sì, probabilmente un po' anche lo spirito di Allegra Brigata, se vogliamo usare questo termine un po' più cacciarone, nel senso che comunque ci trovavamo bene, c'era un buon ritmo e quindi permette di entrare un po' più, diciamo, a livello radiofonico. Ci siamo trasformati poi magari probabilmente in qualcosa di, se vogliamo, più didascalico, però pur cercando di rimanere interessanti e cercando di non far addormentare le persone. Diciamo che il bello di Archeologia probabilmente è il fatto che ha riflettuto un po' l'anima di chi ha partecipato, cioè che ognuno ha portato un po' del suo e quindi in qualche modo ha contribuito anche a cambiare il programma nel corso degli anni, ecco. Giuseppe? Sì, ricordo benissimo, diciamo, l'anima iniziale. A parte ricordo perfettamente il momento in cui mi facessi la proposta di fondare questo podcast, io ero assolutamente titubante, spaesato. Ma sì, sai, perché noi ci siamo conosciuti perché io ero, insomma, e sono un ascoltatore dei podcast, prima di tutto di tutto un podcast e poi, insomma, di quelli che man mano, anche partendo da Archeologia videoludica, poi è sviluppato in seguito. Quindi io ero un ascoltatore. Essere tirato dalla parte dei podcaster, insomma, mi ha un pochettino spaesato. Non sapevo se sarei stato in grado, insomma, di creare qualcosa di duraturo. Beh, di duraturo un po' lo è stato, magari non fino alla fine, però. E ricordo esattamente, veramente, la sensazione di passione quando ci davamo un tema per la puntata e allora uno, due, tre settimane prima si andava alla ricerca di notizie, si creava una scaletta, si creava una storia, si rifletteva anche sull'intervento che i nostri partner avrebbero fatto al microfono. Bello, da pionieri veramente. Così. Beh sì, poi avevamo un po' aperto, diciamo, una pista, anche se c'era già qualcuno. Poi ho visto ultimamente stanno uscendo vari podcast sulla storia del videogioco, sì, improvvisamente. Comunque, Marco, tu invece... Sì, perché noi chiudiamo e quindi c'è essere qualcuno che riempie il vuoto. Il vuoto, ma ce l'avranno vuoto. Quello spirito che avevamo noi all'inizio, no? Quello che poi alla fine è venuto a mancare. La cazzarella, dice, ma sì, sono fatto la cazzarella. No, è stato divertente, è stato molto bello. Ovviamente noi siamo partiti... Che facciamo? Qualcosa di diverso, qualcosa di talmente diverso che non lo sapevamo bene cosa avremmo fatto, però ci siamo buttati così nella mischia, cercando di far divertire, divertirci noi, di prenderci per il culo, soprattutto di prenderci per il culo. Sai, tra una cosa e l'altra siamo riusciti ad andare avanti, insomma. Poi ho sentito la prima puntata bruttissima. Ma io lo so, ma l'ho so risentito. Io sconsiglierei questo podcast, metterei esatto. una stella a prescindere. Esatto. Ma infatti è stato sconsigliato vivamente a partire dalla prima puntata, cioè lasciate perdere, non ascoltate neanche la seconda. Vi ricordate, non è appena uscita la prima puntata. Ma lo sai che recensioni la... negative, roba. Sì, no, infatti però io proprio su quello, Roberto, poi facciamo il giro. In realtà proprio la prima puntata ci ha avuto tantissime critiche, no? Mi ricordo proprio la cosa, la frase più didascalica era proprio più rappresentativa, era non sanno neanche che cos'è un oscilloscopio, come se in realtà la gente va in giro a... o era qualcosa tipo anche un ragioniere saprebbe cos'è un oscilloscopio, no? Come esatto. se la gente va in giro dal droghiere, ma sa quell'oscilloscopio, no? Non è che... io mi ha fatto un oscilloscopio, esatto. me l'hai lasciato troppo. Esatto, scusi, mi leva un po' d'oscilloscopio, qualcosa. E proprio recentemente, lo so perché me l'ha detto una persona, insomma, che è andata a leggere in un gruppo particolare. In realtà qualcuno ha rifatto la stessa critica identica di 5 anni fa, riscrivendo le stesse cose che aveva detto 5 anni fa, dimostrando chiaramente di essere rimasto praticamente all'ascolto di solo quell'episodio, no? Nel senso, ma come, io mi ricordo, lo ascoltai a suo tempo, non sapevano che cos'era un oscilloscopio, cioè una cosa, mo adesso non era un oscilloscopio, faccio un esempio, no? Cioè, diciamo, quando io ho notato una cosa, Roberto, forse tu sei un po' più ferrato di me. Quando entri in questo mondo, che è una sorta di mondo di nicchia, si chiudono tutti un po' a riccio, no? Come se gli vai a invadere il terreno dove hanno pisciato loro, no? Non so se... forse dico una stronzata, magari. Diciamo che hai ragione e torto, così manteniamo un po' l'anima democristiana che... Ma sei certo! Di contraddistinto le puntate, no, secondo me più che altro è il solito discorso che ognuno vuole essere nel suo cortile e senza abbracciare quello che comunque... era un po' anche il nostro intento, cioè che non volevamo assolutamente autocelebrarci, ma volevamo portare un rivivere tutti insieme una serie di ricordi, una serie di tappe della storia dei videogiochi. Quindi se si comprende questo, bene, si comprende la cosa invece come qualcun altro ha avuto un'idea simile alla mia, oppure potrebbe farmi concorrenza, quindi lo martello a prescindere. Se vogliamo anche la mentalità italiana, visto che spesso capita di vedere questo tipo di approcci in diverse realtà. Nel mondo dei videogiochi, dove tutti si conoscono e tutti si dicono amici, diciamo che capita anche più spesso, ecco. In diversi gruppi ho visto anche per altre realtà che lo sport più sentito è lo sparlare su qualcuno, quindi capita, però vabbè. Il lancio della merda. Che poi, è sempre lo stesso, cioè a me va ridere sta cosa, cioè nel senso... Vabbè, uno che sa quello che dice. No, cioè, è coerente. Io apprezzo anche la coerenza, insomma. Però mi imbarazzo un po' certe volte quando vedo queste cose, perché... Ma non finiamo la stagione, il podcast in polemica. No, però vabbè, cioè nel senso, comunque le critiche, allora vengo a te... Cioè, le critiche giuste ci sono state, anche perché poi alla fine... Cioè, partire va a fanculi, Noi abbiamo mandato a fanculo tutti, questo sicuramente. Però è vero pure che da ogni critica... Qualcuno poi alla fine ce lo siamo preso dentro. Cioè, l'abbiamo fatto dalla parte nostra o l'abbiamo... No, però insomma, poi alla fine siamo anche cresciuti anche grazie a quelle, no? Perché comunque poi dopo magari ci riascoltavamo, a volte ce le facevamo una domanda pure da soli, insomma, no? Nel senso, in che cosa poi può migliorare? È chiaro, quando sono state puntate... tre ore e mezza, no, pure lì ci siamo un po', anche se poi il podcaster gli piace la puntata lunga. Giuseppe, tu che dici? Ma sì, anche però sai cos'è? Io penso che noi avessimo a un certo punto trovato una bella alchimia, perché sai, ognuno di noi era perfettamente nel suo ruolo. Allora, il nerdone che passa per quello che vuole essere saccente, snoccioli i dati e la storia eccetera eccetera, e ce l'avevamo. Il rompiscatole che fa la sua nemesi ce l'avevamo pure, la persona super partes che presenta c'era, l'esterno che poi diventa interno e arriva a portare il suo bagaglio museale fra virgolette, insomma si era creato un certo equilibrio che non lo so, difficilmente avrei potuto criticare un qualcosa di così eterogeneo. Anche portato alla censura, tempo, da quella persona lì, ha portato alla censura, sì, all'interno. No, ma quello è stato uno scotch. È stato un momento un po' cardine, direi, se siete d'accordo, del podcast in generale. Anche un po' Carmine, volendo, insomma. Anche un po' Carmine, anche... Boh, chissà cosa sarebbe stato. Vabbè, sappiamo quello che è diventato. Insomma, belle soddisfazioni ci sono state, quindi non abbiamo niente da recriminare. Insomma, il bilancio è largamente positivo, insomma, per tutti, immagino. Marco, le critiche? Le critiche, con le critiche ci si pulisce. Ci si pulisca? No, le critiche sono sempre comunque ben accette, se sono delle critiche, non sono semplicemente degli insulti. Poi sta, la gente ce l'ha proprio con te. E anche sti cazzi, ma è quello, il mio compito era quello di attirare l'attenzione di tutto il pubblico, in modo che tutte le altre merde che facevamo passavano inosservate. Cioè, io proprio Morgan all'inizio ti odiava proprio. Invece adesso che no. Che cosa cazzo ci sta a fare quell'uomo? Adesso lì? Invece mi ama proprio. Adesso gli stai molto più simpatico, sì. Perché non mi sente più qui. Esatto, probabilmente basta, fine. Beh, okay, però comunque è stato una, è sempre comunque stato un divenire, per cui anche le critiche, ripeto, quando sono costruttive e ti dicono guarda, se fai così magari non è buono, è un conto. Quando invece ti dicono fa schifo, ti metto una stella, vaffanculo, forse lì magari è un po' meno utile. Sì, a volte ci hanno messo una stella, io sono andato a vedere, a volte veramente proprio per proprio per l'evasione, metti a appiccico questa caccola sulla macchina, la stessa cosa praticamente. Ti faccio lo sgarro. Comunque, Roberto, il momento più bello di archeologia videoludica per io te? Io penso che sia per tutti lo stesso, però vediamo. Dici? Vediamo. Questo? Ah, questo qui. Esatto. Vabbè, dai, non vorrei essere troppo tranchant. Diciamo che se me ne permetti, ne ho tre, giusto così al volo che mi vengono in mente. Allora, addirittura, vai. La prima puntata fatta con voi, visto che comunque per me era, come per Giuseppe, anche un esordio nel mondo dei podcast, e quindi anche per il discorso critiche, diciamo che mi hanno aiutato anche, diciamo, a indirizzare un po' meglio il mio modo di pormi. Il pubblico non lo sa, ma nei primi tipo 6 mesi Simone quotidianamente mi insultava dicendo che ero un caprone, che non si posava il microfono. Beh, non esageriamo. Lo fa ancora adesso, ma non preoccupati, utilizzando il termine. Era la verità, ma non dicevo così. Sì, esatto, però è stata una cosa amorevole, mi ha permesso di crescere, quindi ti ringrazio. Quindi sicuramente la prima puntata. Poi ricordo questo anche perché si lega un po' anche le vicende familiari, quando è nato Pietro, quindi la prima puntata con i pannolini da cambiare, eccetera, eccetera, che è stata, direi, abbastanza epica. E poi per questione di amore intellettuale e spirituale, la puntata con Di Bello, che era stata molto bella, molto sentita, quindi dal punto di vista contenutistico una delle puntate che ho preferito di più e probabilmente quella che ricordo con più affetto. In generale, vabbè, tutti questi 5 anni, perché al di là del podcast, quindi spero che comunque questo sia emerso, è cresciuta anche l'amicizia, quindi con tutte le esperienze della vita è bello ricordarla per quello. Giuseppe? Puntata più bella. Ma più che puntata più bella, il momento più bello per te, cioè quello che tu come l'hai vissuto. Allora, tu, guarda, più che dirti un momento, guarda, voglio aprire insieme al mio sarcofago anche lo scrigno dei pensieri più reconditi e più... No, vorrei dire qualcosa di importante. Io ricordo esattamente il momento in cui mi parlassi dell'ingresso di Roberto all'interno del podcast. Lo dico, adesso sveliamo questa cosa in tutta sincerità. Ma che qua strozzo! Ma che cazzo? No, assolutamente. Non avevo la fortuna di conoscerlo. No. Però strozzo a prescindere, da buon archeologo e conservatore amante della storia, amante del passato, mi sono mostrato parecchio restio a questa introduzione. Ero un po', no, nel senso un po', ero dubbioso dell'ingresso di Roberto, perché avevo paura che l'ingresso di un partner, parlo non solo di lui ma anche del sito che rappresenta, avrebbe snaturato il format iniziale del podcast. E poi, però, la cosa piacevole, appunto, è questo che ricordo bello, è che col passare del tempo, puntata dopo puntata, insomma, questo pensiero è mutato e mi sono reso conto che effettivamente era un'occasione di crescita e siamo cresciuti, insomma, con questo ingresso. Quindi, vabbè, ho limitato la cosa, dai. No, hai fatto bene. In realtà... Ricordi? No, no, me la ricordo perfettamente sta cosa, ma in realtà, voglio dire, per certi versi, qui lo diciamo così, no? In realtà l'ingresso di Roberto ha un po' denaturato, no? Gli equilibri della trasmissione, ma questo poi, chiaramente con il senno del poi, in realtà secondo me chiaramente in senso positivo, però le perplessità all'inizio ci potevano stare, anche perché poi, come giustamente Giuseppe potrebbe far notare, io sempre con la massima democrazia ho fatto cioè, nel senso, sì, ho sottoposto la questione dicendo ragazzi è entrato Roberto, vabbè, però l'hai fatta sembrare democratica, l'ho fatto sembrare democratica, abbiamo deciso all'unanimità di far entrare. Hai altro? No, direi di no. Stranamente le puntate che ricordo più vividamente erano quelle per cui mi sono preparato di più, cioè quelle dove c'erano i grandissimi storioni di samurai giapponesi, quelli giapponesi, certo. Tengo più una nuova, sì, perché io sono affascinato da questo mondo, quindi, ed era quella, mi pigliavate più per il culo, sia tu Marco e Alex, sì. Bellissima quella sensazione. E tu Marco? Il momento più bello secondo te? Beh, allora, ci sono più belli. Io sono becero. Il momento più bello, più divertente, quello che sicuramente mi ricorderò di più, è la lettura della borsa di Erminio Ottone. No, vabbè, l'avrei raccontato io, dai. Quello penso che è stato uno dei punti più alti della comicità di involontaria, ecco. Che è bellissimo. Che poi praticamente si rischia uno scisma. Ricordiamo, scismi bellissimi dentro di noi. Sì. No, ma cioè, in realtà io comprendevo la cosa, però poi dico, vabbè, cioè, nel senso, se fosse stato dalla parte mia, io come avrei reagito, no? E ho cercato anche di ragionarci sopra. Però, vabbè, in realtà, vabbè. Poi alla fine, col passare degli anni. Ma anche si lì, cresce, ragazzi. Ci sta, ci sta. Io invece ho due cose carine, secondo me. Una, vabbè, come puntata, se proprio penso alla puntata, penso alla puntata dei giochi più brutti. Quello che bisognava regalare i giochi più brutti, ragazzi, è stata. Cioè, non credo di essermi divertito quasi mai come qua. La puntata natalizia, che era? Sì, la puntata natalizia, uno speciale di Natale. E poi, proprio una cosa riguardante Giuseppe, perché Giuseppe, proprio in una puntata, disse una cosa che secondo me era importante, che era proprio era indicativa e simbolica di quello che in realtà stavamo facendo. Che lui, per lui era comunque un momento importante, che lui si ritagliava all'interno della sua vita perché non aveva più tanta occasione di parlare con degli amici della cosa che gli piacevano, no? E quindi questo senso di convivialità. Piacevano nell'ambito dei videogiochi, chiaramente, cioè non è che non è in senso generale. Questa cosa a me mi colpì molto, perché in realtà alla fine era proprio quello che avevamo fatto, no? Cioè avevamo fatto il posto dove noi raccontavamo delle storie anche a noi stessi, perché poi neanche noi, cioè, certe cose le sapevamo, ed è stata una cosa che non c'avevamo dell'oscilloscopio, che è anche il salumire sotto casa, che lo sa, esatto, no? Però voglio dire, cioè, nel senso, questa è una cosa che a me veramente... Chiamiamola riscoperta conviviale. Forse infatti, riscoperta l'avevamo già utilizzato, ci identificava, e adesso aggiungiamo conviviale alla fine del infatti percorso. Poi la cosa, il sottotitolo non era a caso, no? Alla riscoperta del videogioco, non è che stai, cioè, nel senso, riscopriamo anche per noi, no? Un certo tipo di sì percorso. Sì, prima di tutto per noi, certo. Bene, Marco, vogliamo leggere qualcosina così, giusto per tanto. Scusa, Simo, c'è Cortana. Vai. Chi è, ma Cortana? Scusa, no, Cortana, no. Cortana, dimmi, tutta Tana. Ascolta, non vai a raccontare cosa hai trovato sotto l'albero, perché secondo me è un po' un punto cardine anche questo. Vai allora. No, tu cosa hai trovato sotto l'albero quando eri giovane? Lo vuoi che io lo racconto un'altra volta? Se l'ho raccontato in ogni podcast, io quella cosa. Secondo me è importante, c'è, cioè, un po' un cardine su cui è stato costruito. Quello poi è nato il trauma su cui è andato IPN. Ma tu ci scherzi, ma in realtà ogni tanto gente mi scrive su sta cosa. Dice, no, perché tu, io la storiella del Vic 20. Che poi è bello, perché in realtà vuol dire che veramente, anche se per 10 persone, hai fatto qualcosa di divertente, di piacevole, insomma. Peccato che non esisteva YouTube, altrimenti si facevano di quei bellissimi video che si possono riscontrare. Ma il video oggi, fatto. Di bambini, il video esiste, scartano. In realtà il video c'è, ma va ricercato, perché c'è, no, proprio... devi trovarlo. Ma è come il gatto di Schrödinger, potrebbe, cioè, se tu lo cerchi potrebbe, magari scopri che non c'è più, magari scopri che non c'è più, fino a che non lo cerchi, c'è da qualche parte, c'è, esatto. Va bene, dai, leggiamo un attimo queste note, così, questi appunti, e poi facciamo un po' di ringraziamenti, poi ognuno dice la sua finale e poi leviamoci sto dente, insomma. Eh sì, questo dente doloroso. Doloroso. Monica Neddi dice: non è chiuso ciò che può vivere in eterno, e in strani eoni anche la chiusura può chiudere. E qui parte un titolo di coda, secondo me questa la dovevamo mettere come titolo di coda, era la frase finale di Scaletta anzi no, scritto prima di Scaletta che faceva la frase finale, finale bellissima, quando l'abbiamo tolta è stata veramente bellissima. No, Scaletta, dopo la leggi tu questa frase, quindi preparati perché la leggi. Era praticamente un generatore, le mie frasi erano generatori di balle di fieno. Esatto, quindi tu adesso invece di generare ce l'hai, preparati. Ti stupirò. Stupirotti. Ci devi leggere questa frase qua. Allora, poi. No, magari se ne è trovata una. Ah, ma se. Allora, leggi tutte e due. Vabbè. Massimo Borgo, che è quello che. Borgo Giuda. No, ma quello che praticamente assimila le persone. Non male. Ah, il Borgo, perché il Borgo, sono. Borgo. Noi siamo il Borgo. Noi siamo il Borgo. Io li sto risentendo tutti, vedi? Perché lui è Borgo, se li risente lui. Si risente. No, vabbè, ma anch'io me li sto risentendo. Io no, non c'ho il coraggio. Ghosting per ultimo. È questo. Ghosting per ultimo. Ah, no, però quella è un'altra cosa. Ma no, è questo. No, è questo. Va bene, via, ma io. La leggiamo? Non vuoi leggere adesso? No, è questo. Cioè, è solo Ghosting. Guarda. Ah, no, no, ecco. Ghosting ci dice: nuova puntata riguardo a un degli shorts. Sì. Ma io credevo si fossero già socchiusi i battenti, anche se si era parlato di settembre-ottobre per il PN. Credevo non si producesse più altro materiale. Bene, mi fa piacere, un altro tassello da inserire dove non si sa, no, ma non lo vogliamo sapere. Non hai capito niente, Ghosting. Allora. Ma lui sta dietro. Questa chiude a agosto. Il PN non chiude a ottobre, chiude a dicembre. Quindi c'è ancora 6 mesi. Però se tu fai la media, ottobre. No, certo, è così. Dunque, Danilo Giardino. Leggo con immenso rammarico. Festuceto, ricordo. Festuceto. Consumo rammarico. Che questa potrebbe essere l'ultima puntata di archeologia videoludica. Spero di aver frainteso. No, non hai frainteso. Clamorosamente, perché sarebbe davvero una gravissima perdita per il PN, tanto chiude anche il PN e per il mondo dei podcast videoludici. Emoticon frown, questo è per capire, per avere una cosa. Chissà cos'è l'emoticon frown, cioè, l'emoticon spaventato, cioè, non lo so, vabbè. The Ghost in Hunt ha detto, dopo tutto questo, ha fatto un panegirico, no, come possiamo definire? Beh, allora, Costinante, diciamo subito chi è, no? Ve lo ricordate? È il papà di Stefano Biggio. A parte quello. Molto probabilmente. Era quel personaggio che a un certo punto dal forum di All Games Italia è uscito fuori commentando puntate che per noi erano passate da anni, chiaramente. Erano sepolte nella polvere, infatti. Esatto, quindi noi non ricordavamo più, fra l'altro. Esatto, non potevamo neanche rispondergli perché chiaramente chi se ne ricordava più. E poi aveva creato sto meccanismo quasi in metrica a un certo punto, cioè quasi prosesco, insomma, quindi era un personaggio un po' particolare e tutti ci siamo messi a cercare di capire ma chi è, che non è sto personaggio, e non lo scopriamo mai, non fa niente, ma lui ancora ci segue e ci lascia quest'ultimo messaggio che a me ci tengo a leggerlo perché mi ha commosso, perché in realtà vuol dire che veramente io, Giuseppe, Marco e Roberto comunque ci siamo riusciti alla fine a farlo capire come funziona. È una persona che non ha identità, ma ci siamo riusciti. Ma ci siamo riusciti. Allora, mi imposto. Imposto. Faccio la voce. Non distruggere il microfono. Ci vorrebbe la musica. Tan, tan, vabbè, tan, ti ho messo la musica. Tan, tan, tan, tan, tan, ma forse è un po' più. Purtroppo. Cosa sia questa musica? Che cos'è o cosa è stato archeologia videoludica? Se il nome vi spinge ad una rispolverata, magari soffiando in una cartuccia, ammesso che si sappia di che cosa si stia parlando, allora credo siate fuori strada. La sola scelta del nome invece dovrebbe suggerirvi un diverso intento. Questo credo sia stato lo scopo iniziale, e questo è quanto, personalmente, ho percepito. scavare in fondo ad uno stato d'animo. Immaginate un vero e proprio sito archeologico. Ognuno dei presenti potrà avere il proprio scontro, ma non tutti potranno avere l'onore di scorgere da vicino quelle che sono le rovine di quel passato che ormai è passato, come alcune voci sussurrano. L'umanità, nel bene e nel male, tende a dimenticare le proprie origini, ma qualcuno assaporerà il gusto di rimuovere lentamente la sabbia, riportando alla luce antichi mattoncini, significherà per costoro avvicinarsi al pozzo dal quale attingere nuove informazioni, per ricostruire parte della storia. Potranno ritrovare una stele, sulla quale è inciso un arcaico codice, digitale si intende. Significherà entrare nella Sfinge, andare in cerca di segni che, insomma, ripercorrete l'archeologia videoludica. Io ringrazio personalmente tutti coloro che lo hanno ideato, realizzato e anche impastato a volte. È stata per me una fonte di diversi spunti, con i quali ho potuto riscoprire alcune cose, scoprirne delle altre e viverle in un certo senso. Lacrime agli occhi. Mi fu detto... però no, bisogna mettere l'enfasi. Mi fu detto che ne avrei scoperti di cambiamenti, e così è stato. Grazie a voi, ragazzi, con 3Z, per sottolineare che lo si è sempre un po' dentro, quegli inizi verso i quali nutro una certa simpatia, e saluto anche coloro che vi si sono aggiunti avanti nel tempo e che hanno arricchito a loro modo il tutto. PS. Non mi faccio scrupolo nel dire che sarei assolutamente contento se una eventuale occasione, puntata extra, potessi finire nei saluti, come dire io c'ero. Diventerei anche io un geroglifico da decifrare. Un saluto a tutti, ci si becca in un'altra dimensione. Bustin. Roberto? Sto già piangendo. Che gli rispondiamo? No, sto piangendo con questa cosa, no. Veramente, comunque insomma è commovente il trasuda è proprio il... tutto quello che abbiamo fatto in questi anni, quindi veramente grazie. E penso che la parola più sincera e più esplicativa sarà proprio grazie, nel senso che dopo tutto questo tempo leggere queste parole ti fa sentire orgoglioso di quello che hai fatto, quindi grazie a lui, grazie a te, nel senso che a me, a te che hai permesso tutto questo. Che quindi... c'entro, l'ha scritto Gaustin. E vabbè, tu hai permesso comunque che a me di poter partecipare, e hai avuto e portato avanti con convinzione in questi anni anche questo progetto, quindi il ringraziamento è quanto mai doveroso in questo momento. Quindi non era preparato, giusto per dirlo, anche a eventuali critiche che arriveranno a casa. Io amo veramente Simone Pizzi, quindi questo è un outing. Bravo, vai bene, anche io un outing videoludico. Ok, direi che è sufficiente dire grazie, penso che di più rovinerebbe il momento. Giuseppe? Ci sono avute 5 stagioni, però insomma abbiamo avuto... No, ma lui sarà premio. Ancora la terza sicuramente. E lui lo scoprirà fra 2-3 anni, che non ci siamo più. Però insomma è questa l'incarnazione del nostro ascoltatore tanto desiderato, e adesso ce l'abbiamo. Bene, allora, possiamo andare in pace. Marco, se tu vuoi dire una cosa, se no vuoi ringraziare anche l'elenco di persone che più o meno hanno collaborato con noi. Ma io innanzitutto ringrazio tutti coloro che ci hanno insultati, tutti coloro che mi hanno odiato personalmente, esatto, perché anche tu sei riuscito nel tuo obiettivo e continuate ad odiarmi. Esatto. Seguitemi nelle mie pagine e continuate non odiarmi. Vogliatemi bene, non vogliatemi bene. Saluto Simone Pizzi. Ciao Simone Pizzi. Grazie. Ciao anche a te. Saluto me stesso. Ciao me stesso. Ciao Marco. Ciao Marco Gualdi. Ciao Stefano Paganini. Beh, sì, salutiamo. Collaborato Stefano Paganini. Salutiamo, certo. Puntata, ricordiamo la puntata sull'editoria videoludica. Stefano Biggio, che non so, ha fatto qualche cosa lui con noi, non lo so, però lo salutiamo. Sì, ha fatto una puntata. Ha fatto una puntata. Ovviamente Roberto Bertoni, il democristiano. Ciao Roberto Bertoni, grazie. Non sparire adesso, fatti sentire amore, non sparire. Giuseppe Scaletta, anche tu, non sparire nelle lingue orientali. E tu non chiudermi con i chiodi. No, assolutamente, continua a parlare in maniera di Nintendo per farti piacere. Salutiamo anche Luigi Marrone, Mashiro Tamigi, Alex Raccuglia, Giuseppe Saso che si è unito nelle ultime due stagioni, Carlo Sant'Agostino, Gianluca Santilio e anche Nonna Mandragola, che è il nostro amico Morgan, diciamolo. Anche detto Morgan. Detto sì. Morgan. di saluti finali. Prima Roberto, poi Marco. Dico una cosa io e poi, come giusto che sia, perché questo è il podcast del professor Jones, lasciamo chiudere. Io do l'onore a Giuseppe di chiudere proprio la puntata, cioè va, dice quello che gli pare, la chiude come gli pare e via dicendo. Quindi vai Roberto. Oh, ciao a tutti, questa sicuramente è la cosa più semplice da dire. Un grazie davvero, porterò nel cuore tutti questi anni, porterò nel cuore ciascun episodio, tutti i commenti, tutte le critiche positive e negative che sono arrivate. Saluto Paolo, anche se nessuno sa in questo podcast chi è, ma no, certo, è un po' un'anima che mi sta seguendo in tutti questi anni. Da sempre, su tutti i podcast. Esatto, e niente, spero che sia un arrivederci, non un addio, chissà cosa ci riserva il futuro, non lo so. E ripeto ancora grazie a Simone per questi anni, perché è stato un po' il mio mentore e ora potrò fondare finalmente Bertonicast, e quindi sono contento che tutti non vediamo l'ora di ascoltare, tra l'altro. Esatto, ha riscoperto il Bertone videoludico, ecco, ne sarà un po' sottotitolo. Ecco, bene. Beh, io ho già salutato, comunque posso risalutare di nuovo, cominciamo da capo. Simone Pizzi, no, vuoi dire una cosa finale così dai al volo veloce? Beh, che tutto sommato noi siamo chiusi, stiamo chiudendo, qualcosa rimane ancora aperto, ma potrebbe chiudere anche quello, potrebbe trasformarsi, non lo so. Pizzi, facciamola rinascere questa trasmissione, chiamiamola con qualche altro modo, che ne so, bioenergetica videoludica. Bioenergetica? Sotto falso nome, così, capito? Poi tac, gli buttiamo dentro il dottor Jones, il distruggitore, Pizzi e il democristiano, dai, facciamo qualche cosa. Bello, bello, cosa. Non vedo l'ora. No, Vabbè. Andiamo avanti. Grazie Marco, grazie a tutti quanti. Allora, io dico velocissimamente, sono stati 5 anni lunghi, anche faticosi, impegnativi, ma ci siamo veramente tanto divertiti. Abbiamo costruito un gruppo che è diventata una piccola famiglia, persone che magari passano settimane che senza sentirsi, però poi in realtà insomma si pensano ogni tanto, si scrivono, si messaggiano e si vogliono bene, perché comunque quando hai fatto qualcosa di divertente o qualcosa di positivo e l'hai costruito insieme a qualcuno, questo qualcuno comunque in qualche maniera fa parte anche di quello che hai fatto e anche della vita, insomma, con cui ovviamente che ti porti dentro, insomma. Ringrazio veramente tutti, ringrazio tutti gli ascoltatori. Abbiamo deciso di fare questa cosa, di chiudere, perché c'è un momento in cui secondo me è giusto così. Poi fra un anno, due anni, non lo sappiamo, insomma, qualcosa potrebbe... Un po' come ha fatto Batman di Nolan. Perfetto. Ha fatto finta che è morto e esatto. È andato via. Sei andato però, lui esatto. Con Catwoman. Quindi in realtà, insomma, voglio dire, qualcosa succederà. Sicuramente a settembre ci sarà questo speciale sull'Amiga insieme all'archeologia informatica, ma sarà proprio una cosa eccezionale che era stata già programmata, quindi lo faremo. Per tutto il resto dico, a me mi è costato veramente impegno fare questa trasmissione, e questo impegno alla fine m'ha stancato proprio fisicamente. Non è che lo sto a rinfacciare a qualcuno, dico che è stato così, ed è questo stato il motivo che poi alla fine mi ha fatto decidere di chiudere un po' i ponti, di essere arrivati un po' a una conclusione. Però lo faccio veramente con la contentezza del fatto che comunque abbiamo fatto qualcosa di positivo. Io non ho molto altro da dire, perché poi dopo si potrebbe scendere, insomma, anche nel personale, comunque questioni, insomma, che hanno fatto parte di questo cammino, perché archeologia videoludica alla fine ha creato tutto, è stato il punto di partenza di tutto, e comunque io lo dico apertamente, lo dico proprio senza problemi, senza neanche nessun dubbio nel cuore. Per me archeologia videoludica chiude, perché archeologia videoludica aveva perso forse il suo componente principale, che comunque era la sua anima, che era il professor Jones, perché questo era stato fondato sia visivamente che concettualmente la trasmissione sulla presenza del professor Jones. Poi la vita giustamente prende delle pieghe diverse, è giusto che sia così, ed è giusto anche per tutti, perché considerate che un podcast per noi è comunque un gioco, quindi se abbiamo degli impegni che ci portano lontano da questo gioco, è giusto che sia così, e probabilmente anche a me in questo momento sta portando via, insomma, da questo gioco, che è stato un gioco divertente, importante, e vi ringrazio tutti quanti. Mi rimane solo da passare per la chiusura giustamente la parola a Giuseppe. Ed è stato un gioco, appunto, che personalmente mi ha fatto crescere, quindi mio grazie va a Simone, che mi ha trascinato in questa avventura, a Marco, Roberto, alla famiglia allargata di Archeologia Videoludica. Forse non abbiamo citato Andrea Milana. Andrea Milana, hai ragione. Crisbio, Andrea. Ecco, con i suoi remix ci ha portati a un altro livello, diciamo. Forse anche Luca Casciola, Carlo Nocera, pure giustamente per dovere di citazione, è giusto, insomma. Sì, sì, nuovamente Alex, insomma, e tutti quanti, insomma. E surprise, surprise, vi lascio con la citazione sui videogiochi. L'ultima puntata, non ve l'aspettavate, dove eravate? Quindi, un po' per chiudere in bellezza, spero non in tristezza, ecco. Vorrei chiudere con una frase di Satoru Iwata che ci ha lasciati appunto l'11 luglio di quest'anno, e che un po', secondo me, riassume anche un po' cosa voleva essere e cosa è stata archeologia videoludica. La sua frase fa così: per i giocatori più giovani, i classici dei videogiochi sono nuovi di zecca. Per i giocatori di vecchia data, portano alla mente ricordi e fanno stare bene. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Ciao. Conosciuto Archeologia Videoludica e i suoi membri nella persona di Peppe Scaletta, se non ricordo male forse un annetto, credo, circa dopo l'inizio di Retrocast. Mi ricordo che mi scrisse se avevamo un Twitter, e al tempo forse non ce l'avevamo neanche, non che adesso sia molto utilizzato, però qualcosina c'è. E da lì in seguito è venuto fuori che Peppe Scaletta faceva parte di un nucleo di ghiaccioli composto da Simone Pizzi, Marco Gualdi e insomma tutta l'allegra combriccola di archeologia videoludica, che all'inizio insomma noi consideravamo un podcast avversario, diciamo. Poi l'ho sentito e dopo alcune grasse dormite mi sono reso conto che effettivamente erano decisamente diversi dal nostro taglio, sicuramente più radiofonici, più organizzati, ecco, non che ci voglia tanto, però sicuramente più organizzati. Da lì in poi insomma è capitato che li invitassi una volta da me, mi hanno invitato una volta da loro in uno storico episodio su Commodore PET, se non erro, su quel periodo comunque, e da lì sono nate le varie collaborazioni che poi hanno dato DVL, Dietrologia Videoludica, L'Occhio del Beholder e quant'altro, nella persona fondamentalmente di Simone Pizzi. Alcuni sono persi per strada, come appunto Peppe Scaletta, Roberto Bertoni, che per motivi extra podcast, lavorativi a non, insomma, sono dovuti dedicare ad altre attività, però comunque le cose sono rimaste, abbiamo fatto il viaggio insieme a Berlino e così via, quindi sicuramente, come dire, come con la Lucas, come con altre cose, mi spiace sempre quando queste trasmissioni, questi eventi si concludono. In qualche maniera io tendo a lasciare le cose metà e metà piuttosto che chiuderle del tutto, però non sempre è possibile, è anche giusto che le cose abbiano una fine. Non ho un grande amore ad esempio per quei casi in cui delle serie TV o dei fumetti vengono abbandonati, cancellati e così via quando la storia era ancora in corso. In questo caso qui la storia probabilmente si è conclusa ed è giusto che sia così. Poi, ripeto, di definitivo attualmente c'è solo la morte, quindi possiamo stare tranquilli. Potrebbe sicuramente uscire qualche episodio speciale o chi lo sa, tanto si fa tutto per il piacere di farlo e per il piacere di condividere queste cose. Quindi niente, un saluto ad Archeologia Videoludica e morte Archeologia Videoludica, viva Archeologia Videoludica. Ciao! Da grande appassionato di retro gaming ad acceso critico verso il Pizzi e i suoi collaboratori per le prime puntate di Archeologia Videoludica, fino ad arrivare a collaboratore del podcast sempre attento delle deadline. Archeologia Videoludica muore. Il tempo amplia il retro gaming, ma la passione non muore. Archeologia Videoludica non muore. Arrivederci ragazzi e grazie di esserci stati. Un saluto da Morgan. Stamattina mi arriva una notifica: Archeologia videoludica chiude con questa puntata speciale. Non me l'aspettavo, non lo sapevo. E quindi mi è venuto subito da pensare a quello che questo podcast ha rappresentato per me in maniera, diciamo, proprio colta egoistica. Chiaramente tessere le lodi dei contenuti di questo podcast è scontato, lo vorrei fare, ma preferirei concentrarmi su un'altra cosa, cioè su quello che è rappresentato invece per me, cioè, come ho già detto, anche nella mia unica partecipazione al programma mi ha dato modo di conoscere il PN e in particolare Simone attraverso Bertoni, che già conoscevo invece. E questo ha portato poi alla realizzazione di una realtà che si chiama Calavera Caffè, che è una cosa bella che stiamo facendo insieme. E quindi attraverso Archeologia praticamente siamo riusciti a fare un podcast che io da solo semplicemente non riuscivo proprio a fare, anche se ci pensavo da tempo. Quindi per me è questo Archeologia, cioè l'inizio di una bella collaborazione che continua ancora oggi e spero continuerà anche in futuro. E secondo me anche questo è un po' il punto, cioè il fatto che le persone che ascoltano qualcosa quando è fatto in maniera interessante, divertente, creativa, no? Viene fatta con passione, queste persone che ascoltano, e magari anche la cosiddetta maggioranza silenziosa, rispondono in maniera diversa, cioè per alcuni il podcast significa divulgazione, per altri significa divertimento, e quindi è un po' questo quello che facciamo, cioè comunichiamo qualcosa, ed è questo quello importante, è la cosa importante secondo me quando si fa qualcosa di creativo, riuscire a comunicare. Questo secondo me Archeologia l'ha fatto bene, ha comunicato informazioni, ha comunicato divertimento, passione, l'ha fatto in modo piacevole e nel mio caso ha anche comunicato questo, cioè ha comunicato ispirazione, no? Perché è grazie a questo che abbiamo poi realizzato Calavera Caffè. Quindi per me è stato un grande podcast importante e saluto tutti, soprattutto la crew storica, no? Simone, Marco e Giuseppe. Bertoni non l'ho salutato, lo sento stesso continuamente, mi sta anche un po' sulle palle, però devo dire. saluto tutti e scusate, l'ho fatta forse un po' triste, ma non è triste perché in realtà l'archeologia chiude in un momento secondo me molto chiude in un modo abbastanza elegante, cioè perché so che gli ascolti andavano comunque bene, quindi si lascia il tavolo quando sta ancora vincendo e questa è una bella scelta. Io comunque spero che viva in un altro modo, magari spalmato negli altri podcast oppure si reinventi in modo diverso. Io credo, conoscendo anche un pochino Simone, che non è finita qui, non è finita per Archeologia. E quindi vabbè, chiudo qui e mi spiace, sono andato un po' lungo, ma Simone lo sa che io sono logorroico, quindi saluto nuovamente a tutti e nonostante tutto, come direbbe Simone, alla via così. Larga la soglia, stretta la via, dite la vostra che ho detto la mia. Ua! This podcast has been produced with Pod Cleaner. It's in the game. E porco due, via. Porco due. Porco due. Porco due. Porco due. Porco due. Porco due. Porco due. Porco due. Ari porco due.